È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Resta sempre uguale a come sei, un comunista al sole, comunista al sole. Non cambiare tanto, resterai per sempre un sognatore, per sempre un sognatore. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Sublime volontà, sentirsi un po' creatore. Ma ce l'aveva con noi Berlusconi, Parenzo? Non credo. Beh, però è chiaro, facciamolo risentire un attimo, scusa, la zanzara comunista, ma è impazzito? Senti. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Ce l'ha con noi, ce l'ha con noi sul serio. No, forse sì, a riascoltarla bene effettivamente. Ma guarda, è così, per la terza volta, forse l'ultima, non lo so. Però lo facciamo riascoltare, ce l'ha proprio con noi. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Non c'è niente da fare, è proprio così. Sì. Berlusconi contro la zanzara. 800240024, questa è davvero inconfondibilmente la zanzara, caro Parenzo, in collegamento sempre dal Granducato di Siena, credo da casa sua, oppure... Da casa mia ho indossato un maglione di cashmere e mi sono messo davanti a un caminetto a sorseggiare del Chianti classico in omaggio a Berlusconi. Il quale ha detto sui comunisti o sulla sinistra non hanno mai fatto i conti col passato, anche se oggi vestono in cashmere, vogliono farmi fuori. Il maglione di Marchionne di cashmere, secondo te, è quello che indossa sempre? Immagino di sì, forse no, eh? Che dici? Non sento più niente. No, dico, il golf che indossa Marchionne, com'è? Di cashmere? Immagino di sì, sicuramente. Non lo so, c'è da indagare su questo, c'è da indagare. Sicuro, è un quattro fili, non due fili come noi, è un quattro quello sicuro. Comunque, David Parenzo dal Granducato di Toscana, Giuseppe Cruciani qui, Viale Monterosa, Milano, non venite sotto a tirarmi le pietre perché tanto c'è la polizia, da casa sua Gianni Vattimo, se non sbaglio, buonasera. Parli più forte, Vattimo, che non sentiamo niente. Un golfone che non è di cashmere. Ah, un golfone. Ma perché tiene troppo caldo, secondo ma me. Dove si trova lei, Vattimo? Pensavo mi fosse in Marocco. Al mio tavolo di lavoro davanti al mio computer. A casa. Con il telefono a casa a Torino. A casa a Torino. Nel Granducato di Torino. La pensavo in Marocco, invece no. Ma quando mai? Perché? No, va spesso in Marocco lei, no? No, vado nei paesi islamici perché condivido le loro lotte. Ah. Come condivide le lotte dei paesi islamici, scusi, contro il capitalismo sono mondiale, contro gli Stati Uniti. Sono stato a Teheran alla giornata mondiale della filosofia che sotto la pressione dei filo israeliani è poi stata abolita dall'UNESCO, insomma delle cose così. Quindi io... Cioè lei è dalla parte dell'Iran, insomma. Sì, abbastanza. Un voyage dell'Iran, ho fatto un viaggio dell'Iran. No, pensavo avesse ancora un fidanzato in Marocco, lei mi aveva detto una volta, no? Ma quando mai, magari. No, come magari, non è che... No, pensavo avesse... No. Per carità, ma mica è... No, lo so. Non è un delitto, almeno noi non lo consideriamo un delitto, non è ancora un delitto, insomma. Siete una zanzara comunista, una zanzara... Ha sentito, sì, una zanzara comunista. Libertina. Le faccio sentire qualcos'altro di Berlusconi, 800240024, caro Parenzo, ma sei di nuovo in linea o sei caduto, come al solito? Sì, ti avevo completamente perso. Vabbè, così. Quando, te lo ricordi? Quando ti sei collegato col professor Vattimo, sì? Noto comunista, sì? Ti ho perso. Lei è comunista, signor Vattimo? Io sì, sono uno degli ultimi comunisti italiani. No, ma lei oggi dice sono ancora comunista? Sono ancora comunista, sono di nuovo, io non lo sono mai stato. Fortunatamente non posso negare di esserlo stato perché non lo sono mai stato. Però oggi però lo è. Adesso lo sono. Vabbè, da quando lo è? Da sempre o da oggi? L'ultima legislatura europea, 2004. Dal 2004 lei è di nuovo comunista, cioè è diventato comunista. Il funzionamento della democrazia occidentale dall'interno non vedo altra soluzione. No, adesso lei sta scherzando o sta parlando sul serio? Cioè, No, parlo sul serio, anche perché sì, non sono, voglio dire, ho l'impressione che essere comunista possa sembrare anche a Berlusconi una cosa vacua, perché non c'è un partito comunista, non abbiamo la possibilità di farci valere elettoralmente, però è l'unica cosa che può mantenere in vita un'alternativa sociale, un ideale di società diversa da questa. Lei dice. Vabbè, e intanto una volta c'era chi si vantava, e come, di essere comunista. Certo. E in un film di Verdone, non so se ricordi, il mitico Mario Brega, senti cosa diceva. Adoro queste citazioni colte, le adoro davvero. Coltissime. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facciamo, ciao! Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio, io fascio. A so come, io mica so comunista così, sa, so comunista così! Un comunista so. Parenzo, stai ancora ridendo oppure sei... Beh, sono in fase quasi di orgasmo, si può dire orgasmo, sì. Davvero Berlusconi si riferiva alla Zanzara? Io non ci posso credere. Berlusconi, la Zanzara comunista. Ma no, ma Berlusconi, ma noi comunisti, no, io comunista, no. Berlusconi, presidente del Consiglio. Sì, ma Parenzo uno può dire, lo può accusare ogni tanto di essere un po' filo comunista. Batti, ma non ne parliamo, si è dichiarato. Ma io comunista, non è possibile. Querelalo per diffamazione. Ma è una cosa assurda. Berlusconi racconta tante balle, magari questa è una delle tante. Beh, questa sicuro, sul sottoscritto sicuro al 100%. Io sono proprio anticomunista fino all'osso. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Rosso. Allora, cosa ha detto però Berlusconi? I comunisti italiani, come hanno sempre fatto, durante un intervento telefonico alla trasmissione di Alfonso Signorini, Calispera, come si pronuncia lei che è professore? Calispera? Calispera, sì. Calispera. Certo. Cosa significa letteralmente, professor Vatti? Buongiorno e buonasera, Calispera e buonasera. Calispera, quanto è colto lei, Vattimo, è una roba pazzesca. I comunisti italiani, come hanno sempre fatto, mistificano la realtà, demonizzano l'avversario cercando di farlo fuori, come fanno con me, utilizzando i magistrati a loro vicini perché mi considerano un ostacolo da eliminare assolutamente per arrivare al potere. Purtroppo temo che non cambieranno mai. All'osservazione del conduttore, l'osservazione è questa, sentite, con il ciuffolo che lei glielo dà il potere. Beh, un'osservazione di Signorini... Questo lo prenderemo anche col ciuffolo. Questo è signorini. Berlusconi ha replicato: non sono io a darglielo, sono gli italiani, per fortuna, che non si riconoscono in questa sinistra. Questo il duetto tra Berlusconi e Signorini. Senta, ma lei lo sa che il conduttore di Calispera ha mai fatto coming out, Signorini? Non ce n'è bisogno, credo. Sembra una zia travestita da zia. Come una zia travestita da zia? Adesso, no, dice, è difficile. È una persona. Non dubitare. Direttore, ma non le piace come uomo, non le piace. Non le piace come uomo, signorini? Assolutamente no. No. Ma non è come citare al netto del berlusconismo, pseudo-berlusconismo di Signorini, che secondo me tra l'altro è tutto da dimostrare, ma al netto di quello rimane un bel uomo, molto elegante, fascinoso comunque, no? Devo dire che non mi sembrerebbe. Non è il suo tipo. Né come oggetto né come. Persona a cui somigliare, soprattutto come oggetto, che vuol dire, attimo, scusi. Oggetto sessuale. Sessuale. Non so, noi non capiamo qui, non è che siamo, bisogna sempre specificare. Non è che siamo. Credo che il rifiuto sia reciproco. Signorini ha ben altro per le mani. Lei dice? Per le mani, cosa ha Signorini per le mani? Scusi, non ho idea di cosa abbia, ma suppongo che abbia dei grossi atleti che vanno a fargli da escort. Che meraviglia! Scusi un attimo, però abbia pazienza. Lei sta dicendo che il signor Signorini, direttore di chi? Direttore di TV Sorrisi e Canzoni, conduttore di una trasmissione su Radio Monte Carlo, non è conduttore di Calispera e tante altre cose, persona molto vicina al Cavaliere, eccetera, ha per le mani giovani atleti che gli vanno a fare da escort. Insomma, adesso questa è un'accusa un po' grave. Lo suppongo per lui, nel senso, dato che il suo maestro è signore, ha tutto questo giro di escort femmine, che fortunatamente sono donne, in modo da non ridurlo al livello di questi poveri gay maledetti, suppongo che sia una persona introdotto, per così dire. Cioè che abbia per le mani qualcosa che gli fornisce il suo capo, però dall'altra insomma da un altro. No, insomma, lo stesso ambiente, via. Andiamo. Stesso ambiente, Vabbè. Ma non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. Se vuol trovarsi un fidanzato. Comunque, quello che è detto, cioè, noi sì. Adesso possiamo. Però io volevo chiedere a Vatti, perché secondo me Signorini è il vero intellettuale gramsciano della postmodernità. Cioè, adesso non allargare, organico. Organico. Organico, ma nel senso di rifiuti organici, no. Come rifiuti organici? È un vero intellettuale che parla alle masse. Perché sarebbe gramsciano? Appunto. Perché è un intellettuale che parla alle masse. Però questo è vero, Vatti. Ma a me non mi parla mica. È vero che io. Come no? Beh, lei non è lei con la massa non ha niente a che fare, Vatti. Lei. No, però non mi sembra, secondo me, questo discorso. Sì, c'è tutto questo, è entrato anche nella tematica della sinistra questo problema di fare delle riviste come chi in modo da giungere alle masse. Però se le masse stanno lì, meglio non arrivarci. Ma perché? Nel loro proprio. Perché poi un giorno o l'altro si accorgeranno che è tutta una presa in giro, che gli stanno succhiando i salari, li riducono a non fare neanche le pause per andare a far pipì alla Fiat, si rivolteranno. Attenzione, non mi tocchi Marchionne, lei deve sapere, professor Vattimo, e lo ripeto per l'ennesima volta, che io quando entro dentro casa, dentro la mia abitazione milanese, di fronte ho un piccolo baldacchino, un piccolo mobiletto. C'è un grande ritratto di Marchionne? No, un busto, attenzione, un busto. Il professore gli viene un coccolone, professore. Adesso. Professore, questo busto me lo sono fatto fare, diciamo, express, come si dice in francese, cioè espressamente, me lo sono fatto fare da un signore, un artista milanese, al quale ho chiesto, lui mi ha detto. Ma Marchionne ha posato per questo? No, gli ho portato una foto e questo signore mi ha detto: ma lei è sicuro? Ma sì, guardi, io sono un po' malato di queste cose, ho diversi busti a casa, ne ho 15 e voglio aggiungere quello di Marchionne perché così mi piace il personaggio. Io ho il busto che ogni giorno, da quando leggo i giornali e godo leggendo i giornali le frasi di Marchionne, lo spolvero un po', passo un po' di cera lacca, passo un po' di. Sarà lucidissimo, ormai. Io anche ammiro Marchionne come un ottimo manager, credo, per quello che ne so, solo che è funzionale un sistema. Adesso non voglio fare il solito esempio dei campi di sterminio dove quanti più se ne ammazzavano. No. Con poco gas, tanto meglio era il manager. Però, cioè, lei sta dicendo che Marchionne è come un nazista, insomma. No, non è come un artista, ma è un funzionario di un sistema tecnico che è fatto per formare la no, gente. Scusi, lei l'ha detto però, cioè Marchionne è come un gerarca nazista. No, io non ho detto male. Che è come un gerarca nazista, non voglio pigliarmi delle querelle, non ho abbastanza soldi appunto, non per soddisfare le richieste. No, semplicemente dico che stando dentro un certo sistema della competitività a tutti i costi, della riduzione dei costi, dunque? Lui fa bene il suo mestiere, infatti capisco benissimo la che c'entrano i campi di concentramento però che lei evocava prima. Perché erano dei sistemi tecnologicamente avanzati per produrre certi scopi che noi non condividiamo. Cioè lei sta dicendo scusi Parenzo, lei sta dicendo, professor Vattimo, che Marchionne si comporta né più né meno come quelli che amministravano i campi di concentramento per produrre di più, giusto? No, si comporta come un buon amministratore e buoni amministratori erano anche quelli che producevano cadaveri nei campi di concentramento. Poi un buon amministratore di un condominio è anche uno che fa pagare meno spese, oppure un buon amministratore di un negozio è quello che vende di più. Tra l'altro Marchionne vende poco in questo tempo. Ambulanza? Forse un po' sì, dai. È un minimo, non si può fare un paragone, cioè anche se è tirato per i capelli, perché il professore poi in corner, diciamo, si è atteso alla sua pungente dialettica. No, ha guardato un attimo il conto in banca, dice forse mi querela Marchionne. Il paragone non regge. Cioè. Ma secondo me Marchionne non querela nessuno, tra l'altro, perché in questi giorni gli hanno detto di tutti i colori, non credo che... Questo è vero, avrebbe troppo da fare. Avrebbe troppo da fare, insomma, uno che ha violato la Costituzione, fascista, le peggio cose. No, la Costituzione un po' c'entra. No, Vatti, ma non c'è nessuna Costituzione in ballo, abbia pazienza. Lei so che ha sottoscritto un appello. Ma ve lo dite voi da quella radio imparziale, ovviamente. Imparzialissima. Scusi, Berlusconi ci ha dato il comunista, adesso vuole dire che questa è la radio di Confindustria, c'ha dei padroni. Abbia pazienza. No, per carità. Cioè, lo è, ma insomma, lo è per modo di dire. Comunque non sarebbe un insulto, non volete mica correlarmi anche per questo dato. Quale? Che voi siete la radio di Confindustria. Eh no, per carità, mica, cioè, è la realtà. È un dato di fatto. È la realtà. È la realtà. Drangheta, non è la Camorra Confindustria. No, non ancora perlomeno. E come no? No, perché vabbè. Ambulanza, qui ci vuole l'ambulanza. Dovrebbe mettere un freno. A che cosa dice? all'acquisto delle azioni di Confindustria da parte della Camorra. Le industrie settentrionali sono invase anche loro da capitali camorristi. Vabbè, Confindustria è un altro discorso, perché alcune... Però che alcune... è la proprietà transitiva, scusi professore. Battimo, oggi ha deciso il professor Battimo di farmi cacciare da questa radio, io però accolgo volentieri. No, troverà certamente un posto a Radio Praga, no, ormai non c'è più. Traffico, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. Resta sempre uguale a come sei. Insistono ancora nel dire che io ho affermato che i comunisti mangiavano o mangiano i bambini. Continuano a ripeterlo. Allora leggetevi il libro nero del comunismo. Troverete che sotto la Cina di Mao non li mangiavano, ma li facevano bollire per concimare i campi. È una cosa orrenda, ma purtroppo è vera. Sentirsi un po' briatore, chi ti fermerà? C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi? Eccola qua. I bambini bolliti, magari è vero, anzi sicuramente è vero. Questo era Berlusconi il 26 marzo del 2006, quello sui bambini comunisti bolliti. Allora si usava ancora. Beh sì, insomma questo è vero, soggettivamente i comunisti... La Cina è diventata un pericoloso concorrente anche per Berlusconi. Ma questo era il 2006, la Cina di Mao si riferiva a Berlusconi. Però professor Battimo, è vero pure che, adesso per carità, non è un tema di attualità e non capisco perché Berlusconi ancora ne parli, forse perché elettoralmente vale ancora qualcosa, però che i comunisti abbiano fatto dei crimini orrendi, pure questo è vero, cioè non è sbagliato, ripeto, ciò non toglie nulla al fatto che Berlusconi... Alla grandezza di quel grande regime. Poi i comunisti... Come la grandezza? Cosa vuole? Anche le forze democratiche in giro per il mondo ne hanno fatte di tutti i colori, ma intanto non si vede tanto scritto da nessuna parte. E poi io sono convinto, per esempio, che l'Europa è stata salvata dal nazismo da Stalin, lì c'è poco da friggere. È inutile che ci raccontino continuamente che sono gli americani che ci hanno salvato dal nazismo. Vabbè, insomma, sono un po' anche gli americani. Naturalmente il povero Stalin, per arrivare a quel punto di industrializzazione, ha dovuto farne di tutti i colori. Qualche piccolo sbarco in Normandia, magari, ma anche Ma anche Stalin Stalin ma qualche morto. Porretto, un santino. Come un santino? In che senso? No, qual è il paragone? Che in confronto ai crimini di Stalin per l'industrializzazione della Russia, Marchionne è un bravo ragazzo. Che perché secondo lei Marchionne va verso quelle cose, va verso quel tipo di comportamento? Non so ragazzi, non diffondete sempre solo dei pareri negativi sul comunismo. Come no? È comunismo. Il comunismo reale è finito. Io posso essere comunista proprio perché è finito il comunismo reale. Perché non sono mai stato il comunista. Ma un altro comunismo non c'è, questo è il punto. No, non c'è mai non stato. Esiste, insomma. Ma quello sono i soviet più l'elettrificazione. Definizione di Lenin. Senta, però parliamo di cose attuali. Ma fosse per lei, Battisti. Dovrebbe tornare in Italia o restare in Brasile? Ma io devo dire che sono molto combattuto. Come combattuto? Non devo decidere, io sono contento. No, nel senso che, primo, non vorrei dare Battisti a questo maledetto governo come se fosse un trionfo di questi banditi che ci governano. Sono convinto che lui non aveva poche ragioni di tenerselo dal suo punto di vista. Tre, bisogna risolvere la cosa a puro filo di legge, perché altrimenti i sentimenti individuali contrastano, no? Ci sono quelli che erano amici di Battisti magari da piccoli e vogliono che ritorni, ci sono quelli contro cui Battisti ha sparato e che sono sulla sedia a rotelle, che meritano tutti il rispetto. Però non credo che le leggi debbano lasciarsi tirare o da un lato o dall'altro. E allora, allora lei che dice? Voglio dire, facciamo bene a insistere perché torni oppure no? Questo non lo so, io francamente lascerei, farei la battaglia legale che deve fare il nostro governo per far valere i propri diritti nei confronti di quello brasiliano. Andiamo a vedere come finisce. Non ho nessuna simpatia personale per Battisti e neanche nessuna simpatia personale per il governo che lo vuole. Ma non è una guerra tra il governo di centrodestra e il Brasile, tra l'Italia e il Brasile dovrebbe essere. Ma quanti, io adesso non ho stampato questa roba che mi è arrivata in questi giorni, quanti latitanti fascisti ci sono ancora in giro per il mondo che nessuno rivendica? Latitanti fascisti, non esageriamo. Insomma. Ma certo, dei tempi, no, latitanti fascisti, non del fascismo storico. Sì, ho capito. Latitanti dell'epoca delle stragi nere, eccetera, eccetera. questi nessuno ho capito, a lei fa rabbia, quindi... come ha detto prima, che questo orrendo governo possa ottenere un successo, questo... Ma sì, tanto poi diciamo la verità, primo, i poveri familiari colpiti del refice, eccetera, non ne caverebbero niente, se non una giusta soddisfazione della loro... Cioè il successo sarebbe solo di Berlusconi. Né siamo in pericolo che qualcuno, perché Battisti viene tenuto in Brasile, rifaccia il terrorismo. Mm, non allora? C'è nessun problema di ripetizione del danno. Effettivamente c'è un problema di equilibrio dei sistemi giuridici che deve essere lasciato, deve essere risolto a fil di legge. Io su questo, francamente, siccome non ho nessuna. Ma la questione è politica, Vattimo, non è che non ce lo danno per motivi. Io non ho più sentimenti di vendetta. Cioè, lei ha apprezzato Lula quando ha preso quella decisione o no? Sì, certo, era una decisione finalmente indipendente fatta da un capo di Stato. Benissimo. Sta dalla parte di Lula, vabbè, ma non c'è problema. Senta, l'appello di... lei ha fatto un appello insieme a 19 intellettuali, 18-19 intellettuali, sulla prepotenza della Fiat. Ora, gli appelli degli intellettuali contro la Fiat, per carità, è un appello che non è come quello degli anni 70, spesso di intellettuali collaterali al terrorismo, non voglio fare paragoni. Però, certo, sono parole molto pesanti, la prepotenza della Fiat, la violazione della Costituzione... Questo referendum... Primo, intanto è stato anche anticipato, cioè gli operai tornano dalla cassa integrazione il 10 gennaio, il 13 devono già votare. Beh, qual è il problema? Ma gli avessero telefonato a casa, cioè questa è la democrazia come... Io credo che Marchionne, non so se gli costa il referendum, perché francamente potrebbe risparmiarselo. Ma insomma, se vincono i sì, non è la democrazia secondo lei, Vattimo? Ma figuriamoci, vincono i sì con la pistola puntata alla testa, è la democrazia questa qui, se no come... votare con qualcuno che ci dice se voti Berlusconi ti sparo, a me piacerebbe farlo, ma non siamo mai riusciti a farlo. No, scusi, può specificare bene questo concetto? No, voglio dire, che razza di democrazia mai questa fatta sotto il ricatto che o votate sì o perdete il posto di lavoro? Beh, non ha nessun senso. Guardi, allora perdere il posto di lavoro non è che succede l'indomani, il giorno dopo il referendum. Però, Marchionne dice: se voi dite no, i miei investimenti vanno da un'altra parte. Grazie, appunto. La proprietà privata non dovrebbe avere un limite nelle leggi dello Stato. Invece lui se ne fa quello che vuole. Piglia 5.000 persone e le caccia via perché non gli hanno detto che quella disciplina di lavoro che lui vuole imporre anche contro la Costituzione, ripeto e sottolineo... No, la Costituzione qui non c'entra. Ma capisce, sono dei diritti indisponibili, il diritto di sciopero. È come se uno... Ma nessuno, limita... Per far tagliare il rene a pagamento, se la maggioranza lo tagliamo. No, perché il mio rene è un diritto indisponibile, non posso votare... per un accordo che dice quando lo vuoi lo vendi. Ma per cui lei come definisce Marchionne? Definisco un buon manager di una società capitalistica che vuole aumentare il profitto senza tra l'altro fare investimenti tecnologici e quindi riducendo... No, ma un aggettivo voglio, secondo lei Marchionne, la definizione di Marchionne secondo il professor Vattimo. Un perfetto burocrate dell'industria capitalistica. Un perfetto burocrate dell'industria capitalista. Sì, vabbè. Oltretutto un complimento, lui vuole essere questo. Magari un bravo manager, semplicemente un bravo manager o no? Un bravo manager, bisognerebbe vedere però dove va a finire la Fiat. I sindacati che hanno sottoscritto l'accordo, che sono secondo lei? Traditori, traditori, servi? Un colore leggermente tra il bianco e l'arancione, sono ormai sindacatizzati, hanno il loro senso di responsabilità, per carità, la famiglia, tengo famiglia, tutti quelli che rubano perché tengono famiglia. Cioè rubano questi qua, non ho capito. Io stesso forse voterei sì se fossi un operaio Fiat e non avessi nessun altro soldo per convivere, ma le pare che questo sia uno Stato democratico? Si devono vergognare questi qua? No. Questi sindacalisti so che questi qua che hanno firmato l'accordo insieme all'azienda? Secondo me, infatti, non so, secondo me si dovrebbero vergognazzare un po', ma però... Non se non lo fanno, vabbè. Ma allora anche in Germania il manager della Volkswagen e in Francia quelli della Renault sono dei pericolosi burocrati cattivi, perché l'accordo in Francia e in Germania la formula contrattuale è molto simile a quella della Fiat, della nuova Fiat a quella della Germania. La tradizione di cogestione secolare, qui noi non abbiamo mai avuto niente. Va bene, professore, io pensavo che lei fosse in vacanza, invece a casa. No, occupo le le vacanze in queste banalità. Vabbè, la ringrazio molto, mi dispiace che non può rimanere, la inviterei quasi ogni sera. No, devo andarmene. Lo rivedremo a Bruxelles, no, il professore? A Bruxelles, se certo. Sarete più comunisti ancora, io verrò di nuovo. Ma come, siamo, noi ormai siamo bollati, come ha sentito da Berlusconi. Grazie, grazie al professor Battimo. Un abbraccio forte. 18, 57, 30, calma con gli abbracci. 800 24 00 24, Enzo da Torino, buonasera. Buonasera, Fusani. Dica. Allora, sono un vostro vecchio ascoltatore, liberale. Non è la prima volta che telefono. E sono anche un, per ragioni professionali e anche culturali, sì, un lettore da 30 anni del Sole 24 Ore. Bene, me ne compiaccio. Allora? Devo dire una cosa, a prescindere dal fatto che Berlusconi poteva risparmiarsi la battuta sulla zanzara comunista, sì, però io trovo che negli ultimi mesi, da parte sua, sì, ci sia uno scadimento da un punto di vista della obiettività del suo programma. Cioè, in che senso? Sintetizzi, che c'è il giornale radio, dica. Allora, sintetizzo subito. Parenzo, scusi, mi sembra una mezza macchietta. Terese, sì, per fortuna che non c'è più. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè sono diventato, come dice Berlusconi, un po' comunista? No, assolutamente no. Io però un po' più di sinistra, diciamo. No, lei... ultimamente da un taglio un po' gossiparo, un po' fettevole. Va bene, abbiamo il giornale radio, torniamo dopo. 800 24 00 24. Siamo qui alle 19.16, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. David Parenzo dal Granducato di Toscana, Giuseppe Cruciani da Milano. Non venite sotto Viale Monterosa, perché tanto è tutto presidiato. Di fronte abbiamo anche un centro sociale, dunque siamo a posto, cioè abbiamo tutto. Perfetto. Titoli del TG3. Berlusconi, i comunisti ci sono ancora, vestono in cashmere e usano i magistrati per abbattermi. Il PD, battute stantie. Di Pietro, ospite al TG3. Boss, il federalismo deve passare, gennaio un mese decisivo. Nuovo attacco all'Unità d'Italia, capisco, chi non la festeggia. Fissate le date del referendum a Mirafiori e nella Torino, che si prepara al voto, la spaccatura tra i sindacati è sempre più netta. Nuova versione del ministro La Russa sul soldato italiano ucciso in Afghanistan. Non fu un cecchino, Matteo Miotto, colpito in uno scontro a fuoco. Slitta la ratifica del trattato militare con il Brasile, poi Frattini corregge e Bruxelles ribadisce, l'Unione Europea resta fuori. Cresce la tensione in Egitto, timori per il Natale copto, che cade tra due giorni, un sito islamico, presto un nuovo attentato. E nonna Cesira ha quasi 102 anni, ma tra una settimana potrebbe ritrovarsi per strada. E ora la figlia fa un appello su internet. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola via, si svegliano per me. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia mi adorano perché sono pazze del mio sorriso, mi adorano perché abbandono il mio corpo nudo, mi adorano così. Ti piace, Parenzo? Straordinario, eh? Devo ancora scoprire, credo che sia un gruppo che si chiama Cubeta, molto carino, me l'ha mandato un ascoltatore. Io rimango sempre un fan di Ridillo, comunque è bella questa ricerca. Ridillo sono lì. Rimangono il top. Top assoluto. Però un po' come Marchionne, no? Perché sul, sì, sul assolutamente. Centro. Anche questo non è male, però. Sentiamo ancora. Sembra poesia, la cruda verità. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, eccola qua. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente. A me faccio. Io faccio. A socco e io mica so comunista così, sa! So comunista così! Eccoci qua, 800 24 00 24, le frasi di Berlusconi di oggi. I comunisti cercano di farmi fuori con i PM. I comunisti italiani hanno pensato che bastasse cambiare il nome del partito per cancellare il passato, hanno cambiato il nome più volte, ma il trucco non ha funzionato perché sono sempre gli stessi. Ma voli solo tu. Sono rimasti gli stessi, con gli stessi pregiudizi, con lo stesso modo di fare politica, è vero, si sono imborghesiti, indossano capi firmati, scarpe fatte su misura, pasteggiano a caviale e champagne, ma sono sempre gli stessi. Una volta andavano nelle case del popolo, adesso frequentano i salotti più chic, ma non hanno perso il vecchio vizio di mistificare la realtà e di demonizzare l'avversario, calunniarlo cercando di farlo fuori come fanno con me. Ma voli solo tu. Domandissima di Alfonso Signorini: ma lei ha mai avuto una tresca con una donna di sinistra? Questo è bello. Mai, posso giurarlo. E c'è da credere. Non vedo l'ora di avere l'audio stasera nella trasmissione di Signorini. Però è un po' sempre lo stesso repertorio ormai, no? Beh, un po' aggiornato, direi, non quello, no, sui comunisti, quello della donna di sinistra. L'unica cosa interessante è la donna di sinistra, sul resto, lo champagne, i vecchi cliché, stupidi, poi sciocchi, superati. Sì, ma sì, chi è che porta? Soltanto perché D'Alema va a St. Morris, non può andare a St. Morris, D'Alema con Linda Giuva a passeggiare, St. Morris e la tappa sono dei ricchi. Ma pare che Signorino a un certo punto abbia fatto vedere proprio una foto di D'Alema, credo, a St. Morris. C'è la foto, su chi? C'è anche su Corriere.it, voi avete questa foto di D'Alema che passeggia con il suo piumino e Linda Giuva, la moglie, sorridente sulle nevi di St. Morris. Ma dov'è il problema? Ma perché devono andare soltanto a Ovindoli i comunisti? No, sai come la penso però su questo, su altri temi, non sul comunismo, cioè sul... Il Kashmir, che problema c'è? Uno può avere il Kashmir? Sì, no, per carità. Non ho capito, devo avere il Kashmir. Allora, a proposito di Veronica Berlusconi, di Veronica Lario, a un certo punto Signorini dice: la sua ex moglie è diventata un'icona della sinistra. E però Berlusconi, che ha un contenzioso aperto da un punto di vista legale per la separazione, come sapete, mangia tutto, amico mio, gli sta mangia tutto. Su questo argomento, ha replicato Berlusconi, mi astengo. Mi astengo. Allora, cosa ha ispirato Berlusconi? Faceva riferimento a quello che c'è su Corriere.it e la foto pubblicata da chi? Massimo D'Alema sempre più in alto, con la moglie Linda Giuva, tutte e due in piumino, sciarpa, forse di elegantissimi, molto eleganti, devo dire, lunghe passeggiate sulla neve, relax, un po' di sole, cibo genuino, il leader PD, sempre perfido, chi? Leader PD, insieme con la moglie Linda Giuva, ha trascorso alcuni giorni, compreso Capodanno, a St. Moritz, tra le montagne svizzere. Bellissimo. Una cosa meravigliosa. Definitivo, direi, definitivo. È tutto finito, è tutto finito. Tutto finito. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. Il PD altro non è che l'ultimo trasformismo, che l'ultima mimetizzazione del sempre uguale a se stesso Partito Comunista Italiano. Questo era l'8 aprile 2008. 27 ottobre 2009. Ingiustizia. L'anomalia italiana non è Silvio Berlusconi. L'anomalia italiana sono i PM comunisti e i giudici comunisti di Milano. Telefonata a Ballarò. 18 marzo 2010, pochi mesi fa. Berlusconi, vi libero dai comunisti. Scusa, ho visto un cartello che mi ricorda un qualche cosa che ho presente mattina, pomeriggio, sera e anche durante la notte. Silvio, ci devi liberare dai comunisti, sono qui per quello. Se mi guardi, ti giuro, mi confondi, ti sento respirare. chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu. Siamo qui 800 24 00 24. Siamo riusciti a non parlare di Battisti fino adesso, anzi solamente con Battimo, eh? Solo con Battimo. È stato il passaggio più diplomatico dell'intervista fatta a Battimo, quella su Battisti. Sì, quella che tra l'altro è sullo stesso Signorini. In assoluto. Sullo stesso Signorini hai sentito, no? Beh, sì. Sì, insomma, la zia. No, a parte la definizione, ma sugli escort che si procurerebbe. A rischio querela quello, eh? A rischio. Scatenato, ma il professore del pensiero, il teorico del pensiero debole, peraltro. Vabbè, adesso non esageriamo, teorico del pensiero debole. Sì, conosciuto come teorico del pensiero debole. Cioè, sì, il Bernardo. Fosse per me, poi mi hanno frenato, fosse per me chiamerei l'ambulanza a ogni parola. No, ma io anch'io ho dovuto, l'ho suggerito anch'io che sono un noto uomo di sinistra, non lo so più neanche cosa dire se di sinistra, ma insomma. Allora, la Lega vuole fare le scarpe a Berlusconi? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore. La Lega è in combutta con Tremonti. Sentiamo Bossi dopo la cena degli ossi, o prima o intorno alla cena degli ossi, la famosa cena degli ossi. Anzi, facciamoci spiegare da Tosi, sindaco di Verona, cosa sono gli ossi. Tosi. Gli ossi sono, una volta lavorato il maiale, restano le ossa con attaccata ovviamente della carne, e quindi vengono fatti bollire e si mangia quello che resta attaccato alle ossa una volta che il maiale è stato spolpato per farne le costate, le bracciole, le costine. Bossi, Tremonti troppo amico per fare uno sgarbo a Berlusconi. Premere Berlusconi, dovete chiedere a Tremonti, ma Tremonti non farebbe mai uno scherzo, uno sgarbo a Berlusconi, è troppo amico. Com'era il proverbio sugli amici, guardarsi dagli amici, com'era? Guardi Dio che dagli amici mi guardo io, no? Dai nemici mi guardi Dio che dagli amici mi guardo io. C'è una spaccatura all'interno dell'Italia dei Valori, questo non abbiamo chiesto a Battimo, già. Peccato, perché c'è una grande spaccatura, come sapete, tra la guerra di De Magistris. Sì, tra De Magistris e Di Pietro, ma in generale una guerra di potere. Poi naturalmente c'è l'occasione per corroborarla, per alimentarla, per esempio l'uscita di Razzi e Scilipoti. Oggi Scilipoti ha fatto anche dei comunicati, il nostro amico Scili, chissà dov'è. Sì, ha fatto dei comunicati. Ma io ho perso le tracce, non mi risponde più al telefono, lo chiamo, non so dove, ha fatto due comunicati sulla ripresa dell'attività politica. Ma tu lo senti abitualmente, Scili? No, non lo sento, però ricevo i suoi comunicati via internet. Ah, mi manda delle mail con i comunicati sulla ripresa politica, sul futuro ripresa, dell'Italia. Ma che ripresa c'è? No, per il futuro. Ah. Ma io non ci posso credere a Berlusconi, la zanzara comunista. Io più lo sento, più non ci posso credere. No, proprio a me, cioè, ti rendi conto? Non doveva fartelo. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi, cioè, guarda, vedi? Eccola qua. Solo tu da me, le zanzare di casa mia si nutrono di me. Eccoci qui, allora andiamo direi a Sergio da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Due cose, ho sentito Vattimo, vabbè, la sua età gli causa dei problemi di cosa? Diciamo, di intelligenza, perché nel modo in cui si è espresso sia su Marchionne sia su tutto il resto, io gli consiglierei di emigrare in uno di quei paesi in cui viene capito e viene accettato. Ma lui vorrebbe, non ha il coraggio, magari, ma vorrebbe. Vi vorrei chiedere se, visto che probabilmente è uno di sinistra, ma con delle abitudini capitalistiche, se nel suo portafoglio titoli ha qualche azione Fiat. Ma non credo che abbia azioni, investimenti in azioni, però non lo so, magari mi sbaglio. Poi l'altra cosa era, lasciamo perdere la macchietta Berlusconi che spara cazzate e qualche volta dice anche delle cose giuste. La cosa che mi lascia perplesso è che oggi come oggi dare del comunista a uno che lo è stato è un'offesa, dare del fascista a uno che non ha vissuto quel periodo, perché è nato magari 15 anni dopo il regime, è una cosa voglio dire, plausibile, accettata e quasi dovuta nel, no, diciamo Sergio, che entrambe le cose, sì, ho capito, ma entrambe le cose secondo me sono delle enormi stupidaggini. Sì, ma non è offensivo dare del comunista, cioè se lo sei stato, nell'ottica di Berlusconi sì, perché poi, ma io non parlo nell'ottica di Berlusconi, Berlusconi può dire le sue cagate. No, ho capito, lei dice quando uno dà del comunista a qualcuno, infatti se qualcuno dà del comunista a Ferrero, certo non si offende, avendo, no, perché, vabbè, lui, essendo segretario di un partito che io lo ammiro perché è coerente, ma gli ex comunisti del PC, se si sentono dare del comunista, sono disturbati, perché si offendono, vorrebbero dimenticare, non ricordandosi che abbiamo ancora il più grosso paese comunista che detiene l'economia mondiale nelle sue tasche, bond americani, bond dell'Europa. Ma è un paese comunista sui generis. Vabbè, ma nessuno lo critica. Perché i comunisti non lo mettono alla gogna? E invece le critiche sulla Cina non si devono fare, perché non ci si può permettere di farle. Ho capito. Mi segue? Sì, sì, no, la seguo. La contraddizione intellettuale. Vabbè, ma ci sono tante contraddizioni, ma dobbiamo dare la linea alla borsa, sempre con lo stesso numero, 800 24 00 24, se vuole può restare con noi. Sergio, c'è anche Paolo da Piacenza, Carlo da Napoli, Enrico da Napoli, Carmelo da Ravenna. A tra poco. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia. Qui tutto sta cambiando, caro Parenzo, la politica sembra immobile, ma c'è un grande movimento sotto e chissà come andrà a finire poi. Sembra tutto fermo, no? In questo gennaio, in questa ripresa. Un lavorio, un sottobosco, questa cena degli ossi probabilmente segnerà. Un grande lavorio, tant'è che voglio farvi risentire quello che è stato sottovalutato dai media in queste ore, cioè lo sfogo di Bruno Vespa. Ma guarda che è una cosa clamorosa, lo sfogo. Ne abbiamo parlato anche ieri, certo, sì, però è importante. Dobbiamo farlo risentire assolutamente. Ma lo sfogo cortinese, peraltro. Cortinese, no? Sì, a Cortina, però sempre sfogo è, soprattutto per la non dico gravità, no, perché noi siamo peggio. No, lui. Però insomma, le palle l'ha non detto. È da lui. Non è da lui. Deve essere successo qualcosa. Qualcuno dice che c'è una relazione con i fatti dell'Aquila, delle tasse dell'Aquila. Vespa è molto sensibile, ma io non credo sia così. Ho capito, però, sentiamo il Vespa nazionale. Berlusconi, se campa ancora 2 anni politicamente, deve avere il coraggio di mettere le palle sul tavolo e di fare le grandi riforme, altrimenti, siccome il problema della quarta settimana non ce l'ha, è meglio che se ne vada. O fa veramente la rivoluzione, o fa veramente le riforme, o se no deve dare senso al suo governo. Deve mettere le palle sul tavolo, capito? Le palle sul tavolo. Gli applausi, eh? Una cosa spettacolare. Applausi, spettacolare. Donne ingioiellate, impellicciate. Bravo Bruno! Grandi novità dalla Francia. Grandi novità dalla Francia. Il mio amico Tullio Giannotti, corrispondente dell'ANSA a Parigi, ha intervistato Carla Bruni. Ah, però. Pochi istanti fa. Ah. Non sono mai intervenuta in favore di Battisti. L'ho detto stasera all'ANSA Carla Bruni. Carla Bruni Sarkozy, moglie del presidente francese Nicolas Sarkozy. Mi dissocio nel modo più assoluto, ha aggiunto la premier d'Ambe, da tutte le dichiarazioni che mi riguardano su Battisti. Chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu da me. Beh, a questo punto non possiamo che interpellare, caro Parenzo, il signor Bruno Berardi, che è il presidente dell'associazione Domus Civitas, che riunisce le vittime del terrorismo e della mafia, ed è figlio del maresciallo Rosario assassinato nel 78 dalle Brigate Rosse. Il signor Berardi, che ieri, durante la trasmissione in cui era presente anche il sottoscritto, ha parlato di questa vicenda di Carla Bruni. Signor Berardi, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Carissimo, bene, carissimo, carissimo. Continua la battaglia su Battisti, non si fermi. Certo. Siamo lì in prima linea. Avanti. Sempre. Senta, signor Berardi, Carla Bruni smentisce tutto. Beh, me lo aspettavo, cioè, mica può dire una cosa diversa. Lei già mi aveva detto di non dire niente, di stare zitto per ovvi motivi. Ma è logico che si esprime in questa maniera qua. Scusi, può ripetere? Le faccende sue, poi al suo livello non si può permettere diciamo uno scandalo del genere. Scusi un attimo, Berardi, mi ascolta. Ci può dire cosa le aveva detto esattamente Carla Bruni? No, allora, su Battisti andiamo tra poco. Cioè, le aveva detto di non dire nulla, è così? Allora, prima di tutto mi fa spostare da Roma, mi convoca all'Eliseo. Io non è che sono il presidente di qualche paese sovrano, io sono un miserabile vittima del terrorismo, tanto per dire. Allora, quando io gli ho dato dei dati inconfutabili, perché dal Brasile io ho delle amicizie che hanno visto con i propri occhi questa discussione fra lei e il presidente Lula del Brasile. Cioè, no, mi scusi, non ho capito, non ho capito, mi scusi Berardi, lei non ho capito questa cosa delle discussioni tra Carla Bruni e il presidente del Brasile. Quando c'è stato questo party, diciamo, dalla visita di Sarkozy in Brasile. Sì, allora? Allora, questa persona, io mi sono mosso, perché sennò non me ne poteva importare nulla di questa faccenda. Sì. Proprio perché questa persona mi aveva messo nell'orecchio questa discussione che ha, diciamo, assistito lui personalmente. Cioè, non ho capito, una persona le ha riferito che Carla Bruni, durante il suo soggiorno in Brasile, ha parlato di Battisti con Lula? Esatto. E chi è questa persona che le ha riferito questa cosa? Non glielo posso dire il nome, perché è una persona, insomma, di un certo rilievo. Vabbè, la cosa nasce da qui. E cosa avrebbe sentito questa persona? La discussione fra Lula e Carla Bruni su questa situazione degli ex terroristi italiani. E su Battisti in particolare? Quello, poi avevo fatto un articolo sui giornali che denunciavo Carla Bruni alla Corte di Strasburgo per aver ostacolato la nostra giustizia. Vabbè, insomma, Carla Bruni l'ha chiamato, cioè la sua segreteria ha parlato direttamente con lei. Esatto, lei non ho capito. Cioè, non è che ho capito. Lei l'ha chiamata, ma l'ha chiamata direttamente Carla Bruni al telefono? Ci ha parlato direttamente oppure no? Ha parlato, diciamo, col sottoscritto. Ma com'è parlare con Carla Bruni, signor Berardi? Com'è parlare con Carla Bruni? Pronto, sono Carla Bruni. Esatto, allora, quando, visto che l'hanno portato molti giornali francesi questa telefonata, che per filo e per segno, io sono rimasto stranito, perché ho detto: io sono Giulio Cesare, credevo che era uno scherzo. E dice: no, guardi, io sono Carla Bruni, io volevo parlare con lei. Ma lei ci ha creduto subito oppure no? No. Io no, perché, cioè, non è che è una cosa normale che Carla Bruni mi chiama sul mio cellulare, cioè, mi sembra una cosa strana. Ma non ho capito, scusi un attimo Berardi, no, ricostruiamo perché è interessante. Cioè, allora, arriva una telefonata direttamente di Carla Bruni o della segreteria? Direttamente di Carla Bruni sul mio cellulare. Cioè, non la segreteria, non la segreteria. No, che no, può... lei personalmente. Pronto, lei... sono Carla Bruni. Lei ha detto, esatto. Sì, vabbè. Ma... E io sono Napoleone. Che ha detto lei, Berardi? Io ho detto, mi è venuta spontanea di dire: io sono Giulio Cesare. A lei dice: guardi, non è uno scherzo, io sono io, Carla Bruni. Io non ho fatto niente, tutte queste robe qua. Io ho detto: guardi, io se ho scritto una cosa del genere è perché mi è stato riferito che lei, in occasione della sua visita, ha fatto così così. Dice: ma no, io la invito su all'Eliseo, ne parliamo un pochettino. Ecco per da dove è nata sta cosa e qua. E lei è andato all'Eliseo. Cioè, queste cose non è che io me le invento. No, ma chi ha detto che se le mette? Lei è andato all'Eliseo, giusto? Lei è andato all'Eliseo. È certo che sono andato all'Eliseo. È certo, è andato all'Eliseo. Entra... sono stato convocato da Carla Bruni. Certo. Oggi sono tutti i servitori, i colonnelli che per andare al suo studio. Sì. C'è una trafila che è complicata. Ma hanno pagato il viaggio anche. Le hanno pagato il viaggio pure o no? Se le pagano. No, purtroppo no, io lo so pagato io. Uno ti invita e devi pagare pure il viaggio. Hai capito come sono attaccagni questi qua? Io posso passare per fesso, assolutamente, anche se si chiama Carla Bruni, è la moglie del presidente della Francia. A me non è che non me può fregare di più. No, vabbè, ho capito, però i soldi li ha tirati fuori lei, Berardi. L'ho tirati fuori io perché era una questione di principio mia, sì. Io difendo le vittime del terrorismo, sì. E di tutte le altre faccende a me non me ne può importare niente. No, ma questo l'ho capito. Come ci è andato? Non è che ci è andato col Calesse, con l'aereo, ci è andato a Parigi in massimo. Ci sono andato con l'aereo, ho certo. Preso l'albergo, ma non mi ha dato manco la lira. Anzi. Ha detto noi facciamo anche tanta beneficenza, sì. Aiutiamo tutti, se sì. Mi dia il bigliettino, che ci ho dato il bigliettino mio, sì. Poi l'aiuteremo la sua associazione, ma manco per niente. Mai cioè, visto una lira, mai visto un euro lei. Ma niente mai. Proprio. Cioè le aveva promesso aiuteremo la sua associazione, sì, non ha sborsato un euro, beh, è una cosa indegna, una cosa, non sei una cosa anzi, mi ha dato pure un numero di cellulare fasullo. Cioè, quando le... Come fa? Dice questo è il mio numero di cellulare, quando vuole mi può chiamare. Com'è un 335 qua, invece poi quando ho provato a chiamare niente. Non risultava niente. Per niente. Ma com'è il numero? È una bugiarda spudorata. No, vabbè, adesso Aspetta, stai zitto. Adesso mi sono offeso proprio questa faccenda. Ha capito come ha replicato? Mai intervenuta in favore di Battisti, mi dissocio da tutte le dichiarazioni di Berardi, non ha detto di Berardi. Sì, la dice lunga per quello che è Carla Bruni. Cioè che cos'è? Una bugiarda. Spudorata pure. È spudorata pure. Senta Berardi, ma mi dica una cosa, il numero di cellulare che le ha dato la signora Bruni? Certo, Parenzo, adesso ci sto ripensando, no? Pensa se al telefono tu sei lì magari con tua figlia oppure con Telesia, alla sera a un certo punto squilla il telefono, pronto, sono Carla Bruni, tu come rispondi? Io adesso come rispondo? No, lei Berardi, Parenzo, come risponde? Ma chi avrebbe detto sì, vabbè, dai, io sono Napoleone, non lo so, sono Minzolini, avrei risposto. Berardi invece che ha detto, sono... No, ma la cosa paradossale è che quindi ci sono dei punti, adesso scherzi a parte, al netto ci sono dei punti fermi nella vicenda, nella lucidità della ricostruzione del tuo ospite, ci sono dei punti fermissimi. Primo, è stato convocato all'Eliseo, quindi vabbè, questo è ufficiale, cioè c'è scritto da tutte le esatto, parti. Quindi non so, nessuno può smentire il conto. Aspetti un attimo, Berardi. Di Radio France One, sì? Che è venuto a Roma appositamente, sì. Sotto casa, e mi ha fatto ripetere tutta la telefonata, non solo, ma è uscito anche su Equipe, lì, poi è venuta dove lavoro io, France, vabbè, allora Bank, che cosa ha detto a France One? Altre televisioni francesi. Sì. E allora ha fatto questa intervista, che ha detto in questa intervista? Dice come ha risposto lei quando ha chiamato Carla Bruni. Sì. Io gli ho detto io sono Giulio Cesare, non solo, poi mi hanno chiamato quelle che scrivono la vita di Carla Bruni, come si chiama? Sì, vabbè, quelli che hanno fatto la biografia di Carla Bruni. Stanno facendo un libro su. Vabbè, allora, eravamo arrivati alla sua entrata all'Eliseo. Entrata complicata all'Eliseo, Berardi. Cioè... Caro mio, cioè? La prima guardia, la seconda guardia, e poi è venuto uno che sembrava San Nicola con tutti gli ori addosso. Come San Nicola con gli ori addosso? Sono di Bari. Berardi, lei è spettacolare. Uno pensa di Bruno Berardi, un colonnello pieno di fregi. Un militare, insomma, un colonnello dell'esercito francese. Un militare, poi... Sì. Ma ti rendi conto? Perché... È tipico come Fantozzi, no? Sembra Totò e Peppino a Milano. Meravigliosa, ha una capacità narrativa. Quando vado, perché io non sapevo come approcciarmi, cioè volevo fare il baciamano. E invece? Lei mi ha sfilato la mano. Come fa? Cioè, no, spieghi questa cosa, Berardi, perché la scena è spettacolare. Il signor Bruno Berardi è un distinto signore barese che ha avuto delle traversie familiari, come avete saputo, come abbiamo detto. Sì, certo. È molto sanguigno, molto verace, insomma, è uno che non le manda via. Io sono un tipo popolare. Molto popolare, il quale a un certo punto riceve una telefonata che tutti noi vorremmo ricevere, Parenzo, tutti noi, Carla Bruni. Carla, facciamo sentire la canzone di Carla Bruni a questo punto. Questa voce qui, aveva questa voce, Berardi, mi dica se aveva questa voce. Un attimo, le faccio sentire questa pronto, canzone. Buonasera, sono Carla Bruni, il signor Berardi. Io ho detto, mi stanno prendendo in giro questi qua. Scusi, le faccio sentire la voce, guardi. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit. Ah, era proprio così. Berardi, così vellutata la voce, ma con la musica sotto c'era. Ma lei non è svenuta, no. Cioè, lei non è svenuta, non ha detto no, appena, cioè non tremava. Beh, naturalmente ero emozionato. No, ho capito, ma quando poi si è svelata, cioè lei, dopo quanto tempo c'ha, lei ha detto "Ah, sono Giulio Cesare", cioè lei come ha risposto? No, sono proprio io, insomma, dopo quanto tempo? Sì, no, sono proprio io, sono Carla Bruni. Com'è che faceva? Mi ripete un po' la limitazione di Carla Bruni, com'è che la faceva? Pronto, buonasera, sono Carla Bruni e mi dispiace quello che è successo. Ma cioè, facevo fatica pure a sentire la voce, perché insomma. Questa è la prima parte del racconto di Berardi. Resti con noi, Berardi, perché voglio tenere gli ascoltatori un po' sulle spine, perché poi c'è la parte migliore. C'è l'incontro De Visu, faccia a faccia tra faccia, io non riesco più a parlare. Faccia a faccia tra Bruno Berardi. Noi la pigliamo sul ridere, ma è una cosa seria, perché poi Berardi è una cosa seria, Berardi, devo essere preso in giro da questa qua. Appunto, cioè, no, che stiamo scherzando. È la Premier Dam, però, Berardi. Moglie... Ma è una cosa meravigliosa. Ma io sono dalla parte di Berardi al 100%, cioè sono lì. Sì, no, volevo soltanto mantenere un minimo, no? Ma che mantieni? Io sono berardiano di ferro qua. No, minimo di così aura presidenziale. Ma che aura presidenziale? 19:47, Berardi, resti lì, 2-3 ascoltatori, poi torniamo con il racconto di Bruno Berardi, presidente dell'associazione Domo. Io gli rido io i soldi a lei, Berardi, alla Civitas. Da oggi in poi gli rido io i soldi. Vabbè, Carlo da Napoli, no, certo, Carlo da Napoli, buonasera. Eccoci, buonasera a lei, Cruciani. Dica. Ho dei complimenti, vabbè, lasciamo stare. Volevo rientrare un attimo in tema di stasera, arrivano i comunisti, oddio i comunisti. Cioè qua siamo arrivati praticamente a quello che Berlusconi fa quando inizia una campagna elettorale, quindi ahimè, a sentire Vespa, la campagna elettorale è più che iniziata. Mm. Poi il problema qual è? Da Napoli ovviamente lo abbiamo subito nella campagna elettorale delle regionali. Quando c'è la regionale, in 2 giorni vi tolgo l'immondizia, una settimana tolgo l'immondizia. Cioè lei vuole dire che Berlusconi, che parla dei comunisti, inizia la campagna elettorale. Perché il problema è un altro, però la critica che faccio io non è tanto a Berlusconi, ma ai dirigenti del suo partito. Cioè come possono oggi, nel 2011, consentire a un leader tutto quello che lui dice e fa ogni istante. Cioè, lei sta di chi sta parlando? Dei leader del partito di Berlusconi? Allora, lei pensa che i leader devono fermarlo loro, non lo possiamo fermare noi. Cioè, oggi che lui sta dice scherzando. Che addirittura la Zanzara è una trasmissione comunista, no? La Zanzara litiga con tutto e tutti, insomma, no, io sono ascoltatore di tutti i giorni quasi, e quindi mi rendo conto, insomma, che lei ci litiga con tutti, perché le cose devono essere dette così come accadono. Berlusconi se l'è presa con la Zanzara, che devo fare? Non è che posso... No, ma che se l'è presa con la Zanzara significa che siamo arrivati alla frutta, ma il problema qual è? Lui è imbattibile con il suo linguaggio, no? Cioè abbiamo visto che ha vinto la campagna elettorale, non oggi, ma da sempre, solo ed esclusivamente con il suo linguaggio, ok? Sì, però io credo che non l'abbia vinta sui comunisti, soggettivamente, le campagne elettorali. No, non solo sui, per l'amor di Dio, lui è bravissimo nella comunicazione, quindi è bravissimo a raccontare. Però io penso che il canovaccio... Nei fatti è lì che viene meno la cosa, perciò me la prendo io. Vabbè, nei fatti poi ognuno ha le sue idee. Grazie, Carlo. No, il problema delle riforme, Cruciani. Le riforme che ha annunciato. Va bene, d'accordo, grazie. Allora, i dirigenti del suo partito, questo è il problema. Ma i dirigenti del suo partito sono fedelissimi di Berlusconi. Giovanni da Torino, buonasera. Pronto. Caro Giovanni, dica. Buonasera, dunque, io sono un ex comunista e quindi volevo dire qualcosa, diciamo. Sapendo di cosa parlo, io ho fatto il dirigente del Partito Comunista, il funzionario stipendiato dal Partito Comunista italiano per 10 anni a Torino. Sì. Quindi, ma ci sono fior di comunisti anche con Berlusconi adesso? Ci sono fior di comunisti che militano adesso con Berlusconi, sono ministri del governo Berlusconi, vedi per esempio Sandro Bondi. Ci sono state delle persone che sono passate per il Partito Comunista che adesso sono andate con Berlusconi. Sì, vabbè, io no. No, ma lei no, ma sto dicendo che quando Berlusconi parla dei comunisti, forse questi secondo lui si sono redenti, diciamo, si sono affrancati, hanno fatto mea culpa, non lo so, però ci sono diverse persone che sono state comuniste che adesso sono con Berlusconi, ce ne sono tantissime, che hanno militato. Ma è possibile, ma c'è stato sicuramente una stagione, diciamo. Però Berlusconi parla anche di mentalità, bisogna dirlo, caro Parenzo, parla della mentalità, la mentalità di distruzione dell'avversario, la mentalità della la doppia verità e cose di questo tipo. Una roba che appartiene alla propaganda sovietica, ma neanche negli anni 50. No, ma diciamo che anche voglio dire che qualche avversario politico qua. Che qualche avversario politico di Berlusconi abbia ancora questo tipo di mentalità è vero, ma questo tipo di mentalità non è che alberga solamente negli avversari di Berlusconi, alberga in chi fa della la battaglia politica in un certo modo, cioè non è che sia proprietà esclusiva della cultura comunista, anche se certamente la cultura comunista ne faceva largo uso. Beh, insomma, Berlinguer avesse in mente di annientare l'avversario, insomma. Ma volevano conquistare il potere, ma non annientare l'avversario, sia della dialettica democratica. No, certo, seguivano ufficialmente la lettera, Giovanni, allora che ci vuole dire? Lei è stato dirigente comunista, allora? Allora io credo che ci sia una questione proprio di ristabilire un attimino cosa significava essere comunisti in Italia. Vabbè, adesso non possiamo però spiegare in questo momento cosa era fare i comunisti in Italia, perché ognuno su questo ha la sua storia, i suoi orgogli da difendere, le sue vicende da proteggere o da abbattere, insomma. Per cui... No, io voglio solo ricordare però quello che disse Berlinguer nel 1973. Che disse Berlinguer nel 73, così facciamo spegnere la radio a qualche centinaio di migliaia di persone? No, ma nel 1973 Berlinguer scrisse la prima volta la parola famosa compromesso storico. Ho finito qua e non voglio prolungarmi su questa questione. E allora una volta che scrisse compromesso storico, che vuol dire? Allora, se lei mi dice che non possiamo parlarne perché... allora No, glielo chiedo invece, se glielo chiedo io significa che lo può fare. Mi riferisco, dico una parola per sintetizzare in una parola... Cioè nel senso che poi i comunisti sono stati anche al potere, lei dice, no? Sono stati anche I comunisti non sono mai stati al potere. Beh, insomma, nell'epoca del compromesso storico sì, e poi comunque hanno scritto... No, scusi, mi dica quando... Ma non al potere ufficialmente? No, scusi, perché allora... Allora, se lei è giornalista, usi le parole in alcune città e regioni, certo che hanno il potere. No, scusi, signor Cruciani, se lei dice queste cose e non le corregge, le persone, siccome... Allora, me lo spieghi lei, me lo spieghi lei. Siccome io conosco delle persone che magari hanno 25 anni... Me lo spieghi lei, su. ...che fanno l'università e che non sanno neanche cosa significa la parola democrazia cristiana. Ecco, appunto, me lo spieghi lei, allora. Se lei dice, si continua a dire... che il Partito Comunista è stato al potere, si dice... Ma non al potere con i ministri, abbia pazienza, Giovanni. Va bene. Allora diciamo che non è stato al potere con i ministri. Ecco, appunto, non ci sono mai stati i ministri del Partito Comunista. Ha appoggiato però per un periodo il governo, diciamo così? Certo. Ecco, ma questa è un'altra cosa che bisogna... Ha scritto alcune leggi, ha scritto insieme alla maggioranza, insieme alla DC, un sacco di leggi. Diciamo anche questo, questa cosa che ha appena detto, esattamente, per esempio, dovrebbe, diciamo, in qualche maniera rivedere al signor Berlusconi la sua idea di cos'era il Partito Comunista. Sì, può darsi, già questo che ha detto lei. Allora, il Partito Comunista ha appoggiato dei governi, attenzione, perché visto che lei sta parlando proprio in questi giorni di terrorismo e di battaglie. Sì. Allora, ricordiamoci i momenti in cui il Partito Comunista ha appoggiato i governi. La responsabilità, certo, durante il terrorismo, certo. Partito Comunista italiano. Assolutamente, Giovanni. Assolutamente. Dalle fabbriche a Torino a dare i volantini contro il terrorismo. Assolutamente. Ricevendo minacce personali con la pistola da parte di terroristi. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme freinent les roses. Berardi, la riconosce questa voce? Sì, è Bon Amour. Tanto amore suo non credo. Io lo dico proprio per l'effetto contrario. Certo, entrava all'Eliseo dopo aver affrontato il colonnello con tutti i suoi gaglieri pluridecorato, e c'è una sua stanza all'Eliseo, la signora Bruni? Sì, c'è uno studio mega galattico dove c'è la Premier Dame. Dove c'era la Premier Dame. E poi qualcuno ci dice che è una cittadina qualsiasi, no? Ieri chi è che ce lo diceva? La russa lo diceva, una cittadina qualsiasi. Beh, non è una cittadina allora, qualsiasi. Prima di tutto c'erano tutte le porte a trabocchetto, quelle, diciamo, come si usava una volta nel Medioevo. Cioè? Si buttava qualcuno lì. Ma che vuol dire le porte a trabocchetto? E poi mi ha fatto vedere. Scusi, le porte a trabocchetto, sì. Che sono le porte a trabocchetto? Quelle porte, diciamo, a muro, dove non si vedono le porte, però, diciamo. Non so se mi sono spiegato bene di questa cosa. No, ma vuol dire, queste porte a trabocchetto dove erano? Quelle per entrare nello studio di Carla Bruni? Allora, nello studio di Carla Bruni c'erano le porte normali, però i muri erano, diciamo, in alcuni anfratti. Sì. Erano camuffati da porte a trabocchetto. Lei le ha scoperte, evidentemente. Insomma, lei è entrato in questo studio da solo? No, sono io da solo, però insomma c'era lei e c'era un signore che sarebbe il segretario del presidente. Sì, del presidente, segretario del presidente. Sì, che però non parlava italiano, lei doveva tradurre quello che ci dicevamo noi due. Mm. Com'è stato questo? Il primo impatto come sta? Le ha offerto da bere qualcosa? C'era da bere, c'era qualcosa? C'era il caffè, no? Mi ha dato un caffè con delle tazze dorate, anche quelle, insomma. Anche quelle? No. Dico, roba d'altri tempi, sembrava, diciamo, durante un binuetto, una roba del genere, cioè roba troppo. Sì, troppo, per me è troppo. Io ho fatto l'operaio alla Fiat per 12 anni. Certo. Per cui il primo impatto com'è stato, Berardi? Il primo impatto con la signora Bruni, cioè era per entrata, ha visto Carla Bruni, ha preso un coccolone, che ha fatto? No. Certo, perché insomma, bella, è sempre una bella donna, può prescindere. Bella, bella. Dalle bugie. No? Bella è bella, no, Berardi? È bella, sì. Bella, sì. Vabbè, insomma, su Battisti, la frase famosa su Battisti, Berardi, cosa le ha detto? Io voglio da lei, che è una persona sincera, io sono sicuro. Allora, io sono andato lì, prima di tutto mi sono portato le fotografie. Di allora, chi? Me le sono... No, le sue? No, le fotografie dei poliziotti morti. Ah, beh, certo. Per mano della Petrella. Sì. E delle persone che ha ammazzato Battisti. Sì. Perché sapevo che Battisti stava ancora da quelle parti lì, almeno pensavo. Allora? Allora, lei insisteva, jamais, tutte queste cose qui. Jamais su che? Che io non c'entro niente, all'inizio ho detto così. Ma scusi un attimo, Berardi, ma parlava in francese o in italiano? Ma è metà francese, metà italiano. Una sciccheria enorme. Io di controbalso, anche io so parlare un po' francese, parlavo un po' francese e un po' italiano pure io. Così proprio, si è misurato proprio sullo stesso piano. Certo, per far vedere, insomma, che sono proprio terra. Com'è che si dice allora, che ne so, Battisti ha ucciso 4 persone, come si dice in francese? Berardi, adesso... Berardi, però mi casca così. Non mettere in difficoltà pure tu. No, infatti, per carità. Allora, ci fermiamo un attimo, poi Berardi mi deve dire esattamente la frase di Carla Bruni su Battisti, cioè la frase di Carla Bruni, quella riportata ieri da Berardi, mi sono spesa personalmente con Lula per proteggere Battisti. Questo ha riferito Berardi, però me lo deve ripetere bene fra poco dopo la pubblicità. Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, salvo o non salvo così, che bella Carla Bruni, se si parla di te. Eccoci qui, Bruno Berardi, presidente dell'associazione Domus Civitas, qui in Italia sono tutti innamorati di Carla Bruni, invece Berardi dice una bugiarda spudorata, perché oggi ha smentito quello che Berardi ha detto ieri. Berardi, ci racconti cosa ha detto ieri? Allora... mi ha fatto visitare il giardino d'inverno, dice, guardi signor Berardi, noi abbiamo il giardino d'inverno, e lì io, che lei continua a dire che non era stata lei, poi alla fine io gli ho detto, guarda questo mio amico, dice, ma vorrei sapere il nome di questa persona, io ho detto, io non glielo dico, ma mi ha detto che lei, davanti al presidente Lula si è espressa con queste testuali parole. Quali parole? Diciamo di intervenire a favore di queste due persone perché sono perseguitate dalla giustizia italiana ingiustamente. Queste sono le parole. Cioè le parole che mi ha detto questo qua. Che Carla Bruni avrebbe detto a Lula è: lei deve intervenire perché c'è Battisti che viene perseguitato dalla giustizia italiana, così? Esatto. Vabbè, allora lei mi ha detto, appunto, dopo mie insistenze, sì, alla fine ha detto: guardi, io le voglio confessare questa cosa qui, visto che è così, diciamo, così invadente, perché sì, mi ha chiamato pure invadente, pure, che in effetti io l'ho fatto perché sono sicura che Battisti è innocente. Ah, qui attenzione, qui una cosa ancora nuova, una cosa ancora nuova. Cioè, lei, la replica di Berardi a Carla Bruni, che ha appena parlato con l'ANSA, è questa: bugiarda, spudorata, mi ha detto, sono convinta che Battisti è innocente, giusto? Berardi? Sì. Benissimo. No, è giusto per sapere, perché qui abbiamo in ascolto. Mi ha liquidato, poi siamo usciti. Sì. Ha chiamato il chauffeur dell'auto, diciamo, dell'Eliseo. Sì. Mi ha imbarcato nella macchina e arrivederci. Cioè, via, basta, telefono falso, telefono finto, telefonino finto, il numero di telefono finto, che ma dov'è sto finto, cioè vuol dire che non risponde nessuno, ma o risponde un altro? Non risponde nessuno, non esiste, che le dà? Mi dia un po'... non risponde nessuno proprio, ma mi dia sto numero, ce l'ha sotto mano sto numero? Beh, no, ma ormai sono passati tanti anni, ma come tanti anni? L'anno scorso è stato, 2009 l'hai incontrato? No, 2008, fine 2008. Vabbè, un anno è passato, due anni. Non ce l'ha più sto bigliettino. Non ce l'ha più sto bigliettino. No, non ce l'ha più. Non ce l'ha più lei sto bigliettino. Via il numero di Carla Bruni. Come si butta via? No, beh, era finto, era falso. Ma se non risponde nessuno vuol dire che insomma, dice proprio il numero inesistente, inesistente, una fregatura. Scusi un attimo. Ma com'era, italiano o francese sto numero? Non lo so. Non tutto... abbiamo avuto un colloquio con questo numero qua. È tutto finito. Ma il numero com'è? È italiano o francese sto numero? Era Berardi, scusi. Ma guardi, io non gliel'ho chiesto perché non l'ho potuto chiedere. Ma no, il numero com'era? Un numero era italiano? Francese, certo. Ah, che ne so, ero 35. Ah, quindi diceva c'è Paco Respondons, così? Carla Bruni ne più. Che meraviglia. Cosa? Vabbè, Berardi, resti con noi, se può, naturalmente, ma può sicuramente, perché qui innanzitutto c'è una notizia che Berardi ci ha riferito. C'è la risposta di Bruno Berardi a Carla Bruni, che ha appena parlato con l'ANSA. Lo ripeto, bugiarda, spudorata, mi ha detto, sono sicura che Battisti è innocente. Questa è la verità. È la notizia. Titoli della 7. Ieri aveva detto no alle urne, oggi Bossi torna a avvisare il Premier e tutti gli altri. Siamo amici di Berlusconi, ma il federalismo deve passare entro gennaio. Di rischioso per il governo c'è solo la Lega se punta i piedi. E Berlusconi torna a evocare i comunisti. Esistono e come, anche se in Kashmir, e vogliono farmi fuori con i giudici amici. Intanto si lavora per allargare la maggioranza, annunciate 10 new entry nell'area della responsabilità. C'è un burattinaio occulto nella storia della escort che ha parlato di incontri hard con Fini. Questo è il sospetto avanzato dalla difesa del presidente della Camera nella querela alla procura di Roma, che indaga per diffamazione, tentata estorsione. Irata è in ballo come grande sponsor di Battisti presso il presidente americano Lula. Carla Bruni rompe il silenzio. Non sono mai intervenuta in favore dell'ex terrorista. Condanno ogni forma di violenza. Anticipato al 14 gennaio il referendum su Mirafiori per conoscere il futuro dello stabilimento Fiat, con o contro la proposta Marchionne. La FIOM accusa, è il referendum della paura, grave che non ci sia stata data la possibilità di fare un'assemblea per spiegare cosa accade. Finisce solo oggi, 20 giorni dopo, ai domiciliari il ragazzo che con un colpo di casco fece finire in ospedale uno studente quindicenne durante la manifestazione anti-Gelmini del 14 dicembre a Roma. L'alpino Matteo Miotto, ucciso l'ultimo dell'anno in Afghanistan, non è stato colpito da un cecchino. Oggi il ministro della difesa La Russa, in visita al contingente italiano in Afghanistan, cambia versione, morto durante un conflitto a fuoco con gli insorgenti. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit Che bella voce, Berardi, che sì, bella voce. Sì, sono canzoni che fanno solletico proprio, una piuma. In che senso? Cioè, fanno Che sono proprio leggere, leggere. Però romantiche, romantiche, romantiche, no? Sì, ti addormentano subito. Senta, no, ma io vorrei capire una cosa: perché lei questa cosa qua non l'ha detta subito? Non l'ho detta subito, un po' perché poi mi ha detto: mi raccomando, non dire. Ma scusi, non, dica nulla non l'ha cacciato. Questo nostro incontro. No, scusi, che cosa le ha detto esattamente? Non dica niente di questo incontro, perché sai, i giornalisti sono sempre lì a, diciamo, a darmi addosso tutte queste cose qua. Ma mi rifaccia un po' la voce però di Carla Bruni, perché sennò altrimenti, cioè, com'è, no, che mi raccomando, signor Berardi, per la nostra amicizia, poi amicizia di che? Cioè, e allora mi raccomando, com'è che ha detto? Ma proprio tipo dice, mi raccomando di non dire, no, ma lo faccia alla francese, Berardi, lo dica alla francese, sennò meno, così è più credibile. Mi raccomando di non dire niente ai giornalisti, perché sennò la mia posizione potrebbe essere compromessa. Tutte queste cose qua. Ho capito, però scusi Berardi, ma lei se ne poteva fregare, poteva dirlo subito sta cosa. No, ma all'epoca, diciamo, adesso sono andato avanti, ho maturato alcune questioni. Una volta io, diciamo, non è che ero una persona normale come tutti gli altri, perché sono invece normale adesso, ancora adesso, appunto, però, perché adesso, insomma, che ho una certa cultura, me la sono fatta a trattare con questa gente qui, insomma. Cioè lei dice per due anni è rimasto, me ne sono stato a posto mio, è rimasto poi a posto, ho detto basta, perché questi mi stanno solo a prendere, insomma, in giro. Quello è sicuro. Guardi, non c'è dubbio. Però capisci che è una guerra veramente impari, effettivamente, a pensarci bene, una guerra impari, perché da una parte c'è l'ottimo Berardi che prova a combattere la sua battaglia, e dall'altra c'è la Premier Dame con i suoi Davide Golia questa volta, insomma. Cioè, addirittura, capisce lei, ha mobilitato l'ANSA, che oggi ha chiamato Carla Bruni per replicare a quello che ha detto lei ieri, Berardi. Se io contro replico, perché se questa intervista mi fate la cortesia di rimandarla all'ANSA. Ecco, lei non parli con l'ANSA allora, però, Berardi. Se la chiamano, dice no, io ho fatto un'intervista alla Zanzara. Basta, ANSA. Esatto, fatevi dare l'intervista. Anzi, torneremo in Astri alla Premier Dam. Anzi, posso mandare in Astri all'Eliseo, Berardi? Senz'altro sì. Vabbè, senz'altro, grazie. Allora, sì. Se la chiama l'ANSA, dice: anche, ma guardi, perché possiamo andare dal suo amico, come si chiama lì? Sì, come si chiama? Quello dalla trasmissione di Che Tempo Che Fa. Ah, Fazio, sì. Visto che si è sciolto alla presenza di Carla Bruni. Sì. Vediamo se non si scioglie pure con la faccia del sottoscritto. Cioè, lei dice giustamente: mi inviti pure me, Fazio. Invece... invece lui va a prendersi solo la crema delle persone, la crema, insomma. Bisogna vedere se è la crema per davvero, poi, no? Appunto. Io non conoscevo, io però scusa, Parenzo, io non conoscevo Berardi sotto questo aspetto, cioè è una persona eccezionale. No, cioè, non solo per le battaglie che fa, adesso sto parlando seriamente, sì, ma anche per l'ironia che ci mette dopo aver passato quello che ha passato. Per le persone che mi conoscono sanno che sono un tipo abbastanza scherzoso, però naturalmente quando vai a toccare certi tasti devi stare un po', per carità, certo, no? Certo, assolutamente. Poi sulla battaglia, su queste battaglie, lei sa, io ho scritto un libro su Battisti, noi siamo in prima fila, Berardi, appunto, non deve avere dubbi su questo, non deve avere dubbi. Per le persone, per le vittime del terrorismo che sono state colpite in questa maniera qua, essere prese ulteriormente in giro da questi personaggi che si ergono a potenti della terra, possono stare anche nel settimo cielo. Bravo. Non ce ne frega proprio niente. Cioè... Bravo, Berardi, perché qui c'è tutta un'intelligenza francese legata a Carla Bruni che ha protetto Battisti, diciamolo forte. Esatto, cioè, perché lì sono andati a fare, diciamo, la comitiva a Carla Bruni, che ormai si sentiva lei la presidentessa di Francia. Gli aggiungo ancora questo, perché quando stavamo telefonando, perché lei ha il presidente Sarkozy nelle sue mani, in tutto e per tutto. Ah, è questo pure, bisogna dirlo. Me lo dica un po' questo, quando stavamo telefonando? Mi ha chiamato il suo marito lì, il presidente Sarkozy. Sì, suo marito, quello lì. Pronto, Oh, ciao, le dico queste le parole precise. Ecco, mi dica le parole precise. Mon amour, mon amour, ici il y a Bruno Berardi, le président del Victim Terrorism. Poi lui parlava e sì, io non capivo un beato niente, però dicevo, oui, monsieur le président, oui, oui, e quello è bomba, bomba, bomba. Ho detto... Ma era in viva voce? Era in viva voce questo? Sì, era, sì, mia, era viva voce, sì, viva, certo, voce. E allora, mi spieghi un po', com'è finita la cosa? Beh, l'ho salutato, gli ho chiuso il telefono in faccia, cioè... No, è questo. Non ci capivo niente. Parlava Carla Bruni. Scusi, era Carla Bruni e lei, uno di fronte all'altro. A un certo punto... Ecco, lei mi ha passato, dice, c'è mio marito che vuole parlare con lei. Ma mi parlava talmente in fretta che non capivo un beato niente. E allora? Un'altra cosa, E dunque lei ha detto, vabbè, bonjour, che ha detto? Sì, bonjour, presidente, che ha detto lei? Berardi, qualcosa avrà detto a Sarkozy? Stava parlando con Sarkozy, Berardi! È caduto? È caduto Berardi, ma siete pazzi, pubblicità. Ma meno male che c'è Carla Bruni, siamo fatti così, salvo non Sarkozy, che bella Carla Bruni. Siamo qui, questa è la Zanzara, inconfondibilmente la Zanzara. Io sono estasiato, caro Parenzo, estasiato. Grande puntata, grande personaggio. Estasiato perché, insomma... una brava persona, veramente una brava persona. Beh, insomma, il timbro, la definizione oggi, sicuramente una brava persona, però direi un attore eccezionale. Bruno Berardi, ironico, che non riusciamo più a collegarci con lui, probabilmente si è scaricato il cellulare. Oliseo ha già scatenato il suo... Il racconto della telefonata con Sarkozy è strepitoso, cioè, no? Brava l'ispettore Clouseau, però sì, ma il racconto della telefonata con Sarkozy è una roba spettacolare. Va bene, Roberto da Macerata, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. La saluto e la ringrazio per farmi intervenire. Vorrei fare un salutone anche allo strepitoso Parenzo. E a ringraziare anche della trasmissione, perché a me diverte moltissimo, anche a molti altri che conosco. Sì, questa sera io credo che abbiamo fatto divertire qualcuno, magari non tante persone, in modo involontario, perché non era previsto un Berardi così in grande spolvero. Comunque. Difidi delle stronzate che dicono chi l'accusa, che la trasmissione è da gossip, perché noi ci stiamo. Ma guardi Roberto, tutte le critiche sono ammissibili, ma se io dovessi farmi scalfire da quello che leggo, passerei la giornata a rispondere alle persone, a dire no, bisognerebbe fare così, colà, cioè io vado avanti per la mia strada e me ne frego di tutto. Certamente, ma la critica quando è costruttiva è ben bella. No, ma per carità, assolutamente. Ma tutte le critiche registro, le faccio mie, le prendo, le leggo, dopodiché vado avanti. Certamente, non avevo dubbi. La mia è solo una richiesta, visto che siamo nel 2011, chi si sente, cioè, si sentono molti di previsioni dell'anno, no, siamo tutti un po' speranzosi. Io vorrei fare la richiesta di un bel regalo dell'intervento del mago, dell'Otelma, del divino. Otelma, il divino. Ci manca solo quello. Vecchio nemico di Parenzo. È abbonato agli amici di Un Giorno da Pecora. Primo. Secondo, collabora con qualche radio qua e là. Noi ogni tanto lo ospitiamo volentieri, però insomma non vogliamo nemmeno sottrarlo ai suoi numerosi impegni. Ci manda. No, poi c'è un uomo pieno di risorse, con tanto lavoro, tante profezie da fare. Credo che si trovi in India in questo momento, caro Roberto. Ecco, a Padana in India. Noi siamo in attesa di sentire le previsioni del 2011 del divino. Ha fatto addirittura la sinossi del 2011 con le sue previsioni, eccetera, del 2011, tutte naturalmente si riveleranno esatte, come certo, tradizione. Anche perché quelle non esatte lui non le dirà, le dimenticherà. Guarda che c'è un sito, credo che sia il CICAP o cose di questo tipo, che ha bacchettato il divino Telma, scoprendo tutti gli errori del divino nelle previsioni. È divertente questa cosa. Numerosissimi saranno. Comunque, caro Roberto, la situazione è questa: il divino è un nostro caro amico, però è lì, insomma, nel limbo di altre radio, di altre emittenti. Noi ogni tanto, raramente, insomma, lo invitiamo per sentire la sua voce, per avere il conforto delle sue opinioni e delle sue previsioni. Parenzo è stato fantastico di un po' di tempo fa. Il duetto con Parenzo resta un unico, ma assoluto. Ormai nella storia. Rimane nella storia, non è che si può replicare. Io mi sono fermato sulla piazzola di sosta perché non ce la facevo più. Sì, ma io lo capisco e la ringrazio molto, anche Parenzo non ce la faceva più, ma i duetti, sai, non è che si possono replicare sempre. Io sì, ogni tanto replicherei, ho la tentazione di replicare le cose, però appartiene alla storia, diciamo, Thelma versus Parenzo appartiene alla storia. Teniamolo lì, nell'Olimpo. No, ogni tanto la faccio risentire magari e lo monteremo in modo particolare. Caro Roberto, la ringrazio. Va bene, la ringrazio di nuovo. Sono le 20:17, diamo la parola ai signori che si occupano del traffico sulle strade italiane, che hanno lavorato molto in questi giorni di vacanze tra Natale e Capodanno e sono tuttora al lavoro. Li salutiamo, non alla maniera del divino Thelma, ma li salutiamo lo stesso e via con le previsioni del traffico, con la situazione sul traffico. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia. Siamo qui con la zanzara, splendida questa interpretazione. Dei Cubeta, così si chiamano, ma io per i Ridillo restano sempre nell'Olimpo, Ridillo numeri uno assoluto, però abbiamo anche i Cubeta che non sono male, giusto, aprirsi a nuovi talenti. Le zanzare, e ti farò male, zanzare di casa mia. Oh, Beltroni ha detto la sua sulla Fiat, parola chiave sia cambiare, non difendere, hai capito qualcosa? No, vorrei dire, bisogna tenere, è la posizione del PD, cioè quella che prova a tenere insieme Marchionne con le critiche che vengono fatte all'accordo da Marchionne, ci capisce niente. Quindi dice l'accordo va bene, però andrebbe modificato in quei punti. Ci chiede, si possono modificare, ma quello è l'accordo, è questo. Certo, è l'accordo. Cioè, questo è il punto, Cisle e Will hanno firmato quell'accordo e dice no, sì, va bene, però va modificato. Dice, come va modificato? Sì, non solo questo, poi voglio vedere se dal referendum viene fuori una maggioranza schiacciante come si posiziona il Partito Democratico e tutti quelli ma sì, perché nel referendum c'è sì, no, non sì, no, ma anche, esatto, questo è il punto, c'è delle regole, cioè, si vota sì o no all'accordo, non c'è una terza via, purtroppo. Massimo da Lecce, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, questa è la Zanzara su Radio 24 fino alle 21, qui da Via Monterosa a Milano, non venite, tanto c'è la polizia, dal Gran Ducato di Toscana, Davide Parenzo. Massimo, dove non c'è nessuno? Dove non c'è nessuno, la polizia non viene, nessuno, perché da solo sono nel da mio solo a casa, da solo, benissimo, isolato. Massimo? Sì, pronto, dica. Buonasera Cruciani e Parenzo. Senta, io vorrei intervenire un attimo per quanto riguarda Marchionne e la Fiat. Ma lei è sempre lo stesso, Massimo, che noia, mamma mia. Vabbè, ma io non. No, dai. È sempre lo stesso, dai, Massimo. Sono molto educato con Parenzo, la Fiat. Parenzo, dai, è contratta, no, dai. No, dai, Parenzo, l'hai riconosciuto anche tu, vero? L'hai riconosciuto. È stato tanato. Dai, fammi scusi, parlare, Massimo, però io con lei voglio essere molto gentile, non voglio essere sgarbato. Ma lei quanti telefonini utilizza per fare questi scherzi? Più che altro quante SIM utilizza? Quante SIM? Sì, vabbè, telefonini nel senso di SIM. Quante SIM? Le SIM sono tutte mie, chiamo per esprimere delle idee, non mi faccio pubblicità. No, ma non voglio dire niente, ma per carità, però io voglio capire la perversione. Cioè, no, io le faccio esprimere tutte le idee che vuole, per carità, lei può chiamare anche ogni giorno. Solo che mi dica. Io considero la sua trasmissione insieme a quella di Rai 3 Prima Pagina, delle trasmissioni molto interessanti e molto utili. Perché se la ringrazio. Sì, sì. Se qualcuno vuole esprimere delle opinioni, l'unica arma che ha in questo periodo, in questa fase storica, in questi quindicenni di televisione fatta in un certo modo, secondo me sono queste trasmissioni. No, Massimo, la ringrazio molto, però lei non è che ogni volta si può spacciare con un altro nome, almeno il nome resta. Mi creda, Cruciani, sono 25 giorni che non la chiamo, da 14 dicembre. Aspetti 5 giorni e si superavano i 30 di embargo, Massimo. Ma lei ha un po' di paura di ascoltare quello che ma devo no, dire. Ma no, ma si figuri, Massimo. Ma io ho questa idea, guardi. Ma si figuri se ho paura di ascoltare. Vabbè, superiamo questa cosa qui. Però mi deve dire una cosa, mi deve confessare una cosa. La lascio parlare stasera, però mi deve confessare una cosa. Quante SIM ha? 9. Ma lei è pazzo, ma lei è pazzo. È un caso psichiatrico. Chiama l'ambulanza. Ma come mai 9? Chiama l'ambulanza, ti prego. Ambulanza, prego. Ambulanza. Ambulanze a go-go, caro Massimo. Era tanto che non sentivo questo. E la concorrenza, no? Ci sono le compagnie che si fanno guerra una con l'altra, quindi questo è il libero mercato. Ma quindi lei alimenta l'economia italiana, Massimo, da fiato all'economia gratis, italiana. Luciani, è tutto gratis, no, non si preoccupa. Come gratis? Chi gliela paga? Chi gliela paga? Sono prepagate, non c'è un cambio. Vabbè, le paga lei, però. Le carico e basta. Appunto, cioè, no, non è tutto gratis. Ma io basta che le carico 5 euro in un anno e quelle sono sempre attive, non è che pago molto. Per ho avere... capito, però per chiamare deve pagare, qualcuno paga, comunque le carica, ma se non è no, che chiama gratis. Io ho 9 sim per chiamare la Zanzara e prima pagina, non è che chiamo solo altre persone con le 9 sim, io ho una sim con la quale io mi faccio chiamare e chiamo, le altre 8 le utilizzo per intervenire in queste trasmissioni, c'è anche Aldo Forbice, c'è qualcosa altro, quindi... Però ripeto, Cruciani, io chiamo per esprimere delle idee e non per farmi pubblicità. Ecco, è tornato. Si sta avvicinando, Massimo. Si sta avvicinando. Vabbè, io ho capito che lei vuole esprimere delle idee, Massimo, però si rende conto che lei compra 9 SIM per intervenire. No, non sono comprate, sono offerte dalle compagnie telefoniche. No, scusi, aspetti un attimo, qui c'è da chiarire una cosa, qui è della massima importanza. Eh sì, perché io le pago le spese. Cioè, scusi un attimo, noi tutti paghiamo, cioè io no, perché ho il telefonino aziendale. Allora, Cruciani, se io adesso vado in un negozio SIM o Wind o un'altra compagnia e attivo una SIM, la pago 10 euro. Di cui 5 di traffico prepagato e 5 euro sono il costo della SIM. Quella SIM rimane attiva un anno. D'accordo, okay? però lei poi il traffico lo deve alimentare. Se io ascolti, se io chiamo i numeri verdi 824-0024 o 800-050-333 o altri numeri verdi per intervenire, questi sono a costo zero, sono gratuiti questi servizi. Sì. Quindi non pago nessun cane, non ho un costo per mantenere 8 SIM, mi creda, io la carico una volta all'anno. C'è un costo iniziale e poi basta. Gli ho fatto questo investimento, diciamo così, per parlare delle trasmissioni, investimento iniziale di 5 euro. Ripeto, per 9, non per fare giusto? Pubblicità, Parenzo, non lo faccio per fare pubblicità. Ma fai pubblicità e nessuno dice che hai fatto pubblicità. Grande, magari lo facesse per farsi pubblicità. E dici cosa c'è? Vuole sentire cosa penso io di Marchione della Fiat, per esempio? Sì, sì, mi dica, Massimo, era più interessante questo discorso sulla mentalità che uno ha per comprarsi 9 SIM. Ma comunque... Sì, perché su Marchione si sono favorevoli o contrari, invece è più bella questa storia che lei racconta, indubbiamente. Vabbè, comunque se uno vuole esprimere, ripeto, dei concetti, delle idee, senza che vengano filtrati, e senza sentire le solite litanie sui giornali, sui telegiornali, l'unico mezzo che ha è o internet e lo ascoltano chi è collegato, chi si va a collegare, oppure una radio, la vostra è molto democratica, come ripeto, Rai 3 prima pagina sono molto democratici, si parla, non si subiscono delle querele perché non si fanno offese, non si dice niente di particolarmente penalmente rilevante, basta, e mi sembra una cosa democratica. No, ma nessuno dice niente, è che lei potrebbe intervenire una volta al mese tranquillamente. Io ieri l'ho vista a lei a Sky, la guardavo e dicevo, ma guarda te, un mese fa mi ha fatto arrabbiare Cruciani, adesso lo vedo in televisione, la vedo spesso in TV, mi piacerebbe dialogare con lei, è l'unico strumento che ho è questo. No, ho capito, Massimo, però guardi che se lei avesse un solo numero... posso dare il numero di cellulare di Cruciani? Non mi interessa. Vabbè, un attimo solo, Massimo, resti con me, stasera deve restare con me, non faccia scherzi. Berardi, che ha fatto? È caduto il telefono? Carla Bruni dall'Olimpo mi ha tirato un fulmine sul cellulare. Ho capito, dall'Eliseo, cioè. Dove eravamo arrivati? Non è che ha parlato con l'ANSA, Berardi, non mi faccia sto scherzo stasera. No, non ho parlato con l'ANSA. No, mi raccomando, qui non siamo noi che dobbiamo parlare con l'ANSA, qui Radio 24 deve parlare con l'ANSA e comunicare la reazione di Berardi a Carla Bruni. Senta un attimo, ma dove eravamo rimasti? Non mi ricordo. Sì, appunto, è la telefonata con Sarkozy. Allora, era lei e Carla Bruni, uno di fronte all'altro, scrivania, sì. C'era una scrivania di fronte. C'era il tavolino con le tazze di caffè. Ah, il tavolino con le tazze di caffè. Aveva le scarpe le ballerine, quelle bellissime, diciamo. Che ha sempre era Carla Bruni. Com'era vestita Carla Bruni? Aveva un abito grigio. Scollata? No, scollata. I soliti vestiti che userei. Presidenziali, insomma. Sì. Le scarpe basse sono bellissime, quelle scarpe ballerine basse, che sono bellissime. Com'erano le scarpe? Tacchi o ballerine basse? No, no, ballerine basse. Ballerine basse, scarpe basse, elegantissima. Però Berardi era lì tutto d'un pezzo, non è che si faceva impressionare da queste cose. No, certo. No, a me non mi impressiona, ormai. Ormai c'ha i suoi anni, lei non è che. Era modella, però. Vabbè, le donne le piacciono, però Berardi non è che. Caspita, che mi piacciono, voglio. Appunto, dico, non è che. Faccio anche la collezione. Come fa la collezione? Scusi. No, Berardi, non c'è. Che vuol dire? Ora, diciamo, mi piacciono. Le piacciono la collezione, però vuol la dire collezione è un po'. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Beh, certo. Cioè, le piacciono le donne, insomma, cioè, ma lei è sposata. Ecco, ma se non ci fosse di mezzo il caso Battisti, la signora Bruni sarebbe il suo tipo, immagino. Sì, sì, sì, certo, certo, come no. Eccolo, questo volevo capire. Vabbè, sì, chi non chi. No, beh, potrebbe essere anche che uno dica no, no, no, sono guardi, talmente accecato dalla vicenda. Subito dopo l'intervista, che io stavo in albergo a Parigi, sì, mi ha chiamato proprio uno della sua trasmissione, se non ricordo chi è. E mi aveva detto, ma lei sta a Parigi, ha parlato con Carla Bruni. Ho detto, beh, allora. E allora, certo. Che fortuna! Lei è un uomo fortunato. Ma chi è sto cretino che l'ha chiamato? No, adesso non diciamo i nomi. No, è uno che lavora con me, sì, che ha fatto una telefonata del genere. Ma siamo no, pazzi. Sarà uno che lavora al Titanic, figurati. No, lei, ma è uno che lavora con me, che per, come dire, per no, Dazio benevolente. Esatto, certo, insomma, certo, per cercare di, certo, come dire, di conquistare Berardi, che però non ce n'è bisogno perché Berardi mi conosce. Ha usato queste parole. Vabbè, Berardi, ma tavolino, sto telefono dov'era? Sul tavolino o sul tavolo principale? No, ce l'aveva lei il cellulare. Cioè, ah, il cellulare? Come? Non era viva voce, scusi, vabbè, Berardi, però lei non ci può dire. No, no, no, lei viva voce, era il cellulare, lei l'ha chiamato. Sì. Mon amour, ici Berardi Bruno. No, la voce esatta, però voglio, Berardi. Poi l'ha passato il cellulare. Poi l'ha passato il cellulare. Sì, sì, lui parlava in fretta. Lei non ha capito niente. Un sacco di cavolate, Presidente, non ha capito niente. Non ha capito niente delle telefonate. Ma niente, troppo veloce. Troppo veloce. Poi non è che potevo dire al Presidente, parla più piano che non ti capisco. Cioè. No, certo. E poi che ha fatto? Gli ha ridato il telefono? Gli ho dato il telefono indietro, ho detto, guarda, senti un po' cosa vuole. Ma come senti un po' cosa vuole? Ma è mica un cameriere, scusa. La cosa. Ma come si fa? No, però Berardi, non è che poi tu dici, senti un po' cosa vuole questo qui, come fosse un matto. Lui sarà presidente francese, non mica presidente italiano. Cioè, non ho capito, lei a un certo punto, che ha capito di questa telefonata? Che cosa le ha detto Sarkozy? No, diceva, cioè, non ho capito niente, non so cosa aveva detto. E allora, e lei come ha risposto? Come ho risposto? Au revoir, arrivederci. Arrivederci, vabbè. E gli ha ripassato il telefono dicendo, senti un po' cosa vuole questo, ma dai. Berardi, io ci credo, io ci credo a tutto quello che dice Berardi, è così. Cioè, perché ma perché no, dovrebbe mentire? Cioè, Berardi, perché dovrebbe raccontarci? No, ma poi il segretario che era a fianco aveva gli occhi imbambolati. Perché? Cioè, noi parlavamo in italiano, lui cercava di capire che cosa ci dicevamo. E ogni tanto chiedeva, ma che state a dire? Come che state a dire? Come diceva in francese, lo diceva. No, lo diceva in francese a Carla Bruni, almeno me lo diceva perché io. Certo. Vabbè, allora abbiamo la pubblicità con la borsa delle 20:30. Bruno Berardi, presidente dell'associazione Domus Civitas, versate del denaro a questa associazione. Figlio del maresciallo Rosario, questa è una cosa seria, assassinato dalle BR nel 78, il quale ci ha detto, ripeto, Carla Bruni, una bugiarda spudorata. Mi sono stufato, mi chiamò personalmente sul mio cellulare e mi invitò all'Eliseo per parlare del caso Battisti. Mi riferì che disse a Lula di intervenire in favore di Battisti perché era perseguitato ingiustamente dalla giustizia italiana e lo fece perché era convinta dell'innocenza di Battisti. Mi promise anche che avrebbe aiutato la mia associazione. Non ho mai visto un euro, è giusto? Mai visto un euro, Berardi. Esatto, io ho lasciato il mio bigliettino da vista pure. Mai chiamato. Che fine ha fatto? L'avrà buttato nel cestino subito. Sì, per forza. Borsa, torniamo subito. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via, si svegliano per me quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Le zanzare di casa mia mi adorano perché sono sono pazze del mio sorriso. E poi è molto déplacé, come si dice in Francia. Mai la moglie di un presidente della Repubblica potrebbe andare a parlare al presidente brasiliano per una cosa che non c'entra neanche con la Francia. L'ho trovato quasi, per me è stata una calogna questa cosa scritta. Sì, veramente una calogna. Male zanzare di casa mia. Hai avuto un ruolo in questa vicenda? Assolutamente mai. Sono molto sorpresa che i media italiani possano pensare che io ho avuto un ruolo in questa cosa. Questa cosa, la non estradizione o l'estradizione di Battisti è una cosa del governo brasiliano. Io non mi permetterei mai, prima di tutto non ne ho l'ideologia, non ho mai voluto difendere Cesare Battisti, non mi viene neanche in mente. Sono contenta di potertelo dire, insomma, anche agli italiani, anche alle vittime del terrorismo degli anni di piombo. Non l'ho mai fatto, non lo farei mai. Berardi, ha sentito la voce? La riconosce? Sì, da Fazio. Dica a Fazio qualcosa, Berardi. Dica a Fazio, mi inviti, dica a Fazio qualcosa. Faccio un appello a Fabio Fazio. Ma perché non ci chiama tutte e due Fabio Fazio? E così mi dice le stesse cose che ha detto lì al giornalista. Cioè? E poi oggi rispondo pure quello che ha detto adesso. Ah sì, cioè lei dice inviti di nuovo Carla Bruni a confrontarsi con me, voglio un confronto con Carla Bruni da Fazio, giusto? Esatto. Oppure da un'altra parte. Esatto, perché insomma gli darò il pane per i suoi denti. Su quello non c'è dubbio. Insomma. Vabbè, insomma, come la liquidò Carla Bruni? Niente, dice. Mi fece accompagnare al cortile dove ricevono, diciamo, le autorità, chiamò l'autista e mi fece fare un giro, diciamo, a Parigi, nei musei. Cioè, disse all'autista porti questo signore in giro? In giro. E poi i turisti, quando mi vedevano nella macchina presidenziale con la lucetta, passavano tutti davanti alla mia macchina per vedere chi c'era dentro. Una meraviglia. Quello è stato bello, però, Berardi. Io mi davo importanza, dicevo, ormai sono diventato qualcuno. Andato al Louvre senza fare le code, scusa. Dove è andato al Louvre senza fare le code? Dove è andato? No, sono andato al Louvre, poi a vedere i quadri di Van Gogh, alla Gardasee, al mostro di. Vabbè, dov'è? Impressionistico. Tutto. La Gardo, sì. C'era sempre la macchina accompagnata. C'era la macchina che mi aspettava, mi ha accompagnato, mi aspettava l'uscita, mi ha accompagnato all'albergo. Tutto. Che bello. Di tutto, di più. Tutto un giorno è durata questa vicenda. Sì, poi la sera mi sono fatto accompagnare all'aeroporto. Almeno i soldi del taxi all'aeroporto l'ha risparmiati, Berardi. Almeno quello. Posso dire un ricordo della Carla Bruni. Un ricordo della Carla Bruni. Certo che è bellissima la scena, però della Carla Bruni dice porti quest'uomo in giro per i musei. Com'è che ha detto? Allo chauffeur? Oui, je suis Carla Bruni. No, beh, adesso questo non ha detto. Mica bisogno di dire, questo non c'era bisogno. Vabbè. Cioè, come ha detto allo chauffeur? Accompagni questo signore, ma quello in francese. Diciamo il signor Berardi nei musei dove vuole andare. Quello in francese, però l'ha detto. La macchina è a sua disposizione. Com'è che ha detto? Però non è con la vocina, me lo deve fare Berardi, sennò. La macchina è a sua disposizione. Ecco, un po' francesizzato, insomma. Sì, era Staglioli lì, quella. Vabbè, Berardi, io la ringrazio prego. Di questa presenza. Mi raccomando, per stasera abbiamo chiuso, Lanza non si parla. Muto con Lanza, perché sennò ci rovina tutto. Va bene. Mi d'accordo. Faccia questa cortesia, poi a buon rendere, come dire. E qua già sul mio cellulare arrivano i messaggini di gente che vuole parlare. Pure. Lo so, do ut des, come dire, nella vita c'è do ut des. Grazie, Berardi. Bocca al lupo! Bocca al lupo, Berardi, grazie. Sarà martellato Berardi. Deve spegnere il cellulare subito. No, non resisterà questa cosa, non resisterà. Beh, però un racconto esplosivo, no? Siamo nel quadro della notizia. Spettacolare. Va bene, Stefano da Perugia, 800 24 00 24. Intanto il mitico possessore di 9 sim da Lecce è fuggito. Però lo richiamiamo, tranquillamente, voleva dire la sua su Marchione, ma qui è il benvenuto, anche se parla malissimo di Marchione, non abbiamo problemi. No, noi che abbiamo il busto di Marchione a casa non abbiamo problemi. Beh, noi, tu hai il busto. Io, vabbè, noi intendo la Zanzara. Io non ho né quello di Marchione né quello di Cremaschi. Quindi... No, io ripeto, ho 16 busti, un giorno farò l'elenco dei 16 busti che ho e del... Ho un busto di Landini, te lo faresti o no? Stai scherzando, ma scusa, ma una persona che ha un minimo di logica, una persona che ha un minimo di sale in zucca, di fronte a due persone che parlano, tu sai dove voglio arrivare, perché questo discorso l'ho già fatto in privato con te, di fronte a due persone che parlano, un giovane di oggi, una persona che ha un minimo di previsione del futuro, non so come dire, un minimo di preparazione, un minimo di speranza nel futuro, un minimo, c'è Landini che parla e accanto c'è Marchione che parla, ma chi sceglie? E sono due mondi diversi. No, ma chi sceglie? Anche, chi sceglie? Anche la differenza, ma no, io cosa scelgo? Tu cosa scegli? Dì la verità, cosa scegli? Ma io in questo sono un po' veltroniano, nel senso che sono con la battaglia di Marchione. Vabbè, ma sei proprio come Veltroni. Sì, perché ci vuole la modernizzazione dei contratti, ma applicare quei contratti in un sistema come il nostro non funziona. Ma come non funziona? Non funziona perché ci vogliono delle... perché i primi a non volerlo sono molti imprenditori, tra l'altro, che non avendo il potere contrattuale della Fiat lo prenderanno in quel posto. Il discorso è complesso. Molte piccole imprese non riusciranno ad applicare il modello Marchionne alla loro impresa. Ma questo chi te l'ha detto? Beh, è così, vedrai che il dibattito nelle prossime settimane sarà questo. Vabbè. La Fiat lo può fare perché ha un grande potere contrattuale, fa a meno sia della Confindustria sia dei sindacati, perché questo è il modello. Ma che dei sindacati? Ma assolutamente, che dei sindacati? Come? I lavoratori probabilmente voteranno massicciamente. Certo, in questa fase di transizione, ma il modello al nocciolo qual è? Quello di una contrattazione azienda per azienda, dove non c'è più bisogno né del sindacato nazionale né della Confindustria nazionale, perché a quel punto ogni azienda, questo è il nocciolo della questione Marchione, la grande innovazione è anche questo, certo, è anche questo. Vabbè. Soprattutto questo, non le cose di ola di sciopero sono puttanate che mettono lì per creare propaganda e fumo negli occhi, figuriamoci se il problema è passare da 12 minuti la pausa a 10, sarà mica quello il problema. Oggi Gad Lerner su Vanity Fair pone la questione, tutti quanti noi giudichiamo Marchionne un rivoluzionario, cioè una parte della stampa e degli opinionisti italiani è un rivoluzionario, però poi nessuno lo giudica dal punto di vista della produzione dell'auto, insomma, cioè dei risultati poi concreti, e questo sicuramente è un altro tema. Abbiamo ritrovato Massimo da Lecce, poi vado subito da Stefano da Perugia, Giancarlo da Milano, Daniele sempre da Milano, Piero da Napoli. Massimo, allora, su Marchionne, dica, l'uomo delle 9 sim, dica. Allora, Luciani, innanzitutto considero Marchionne non uomo dell'anno del 2010, perché i numeri della sua attività sono tutti negativi, lo ha detto anche solo 24 ore, l'app va male e per l'azienda va peggio. Seconda cosa, sarebbe, secondo me a questo punto potrebbero anche non votare il referendum i lavoratori, perché se tu mi dici se voti contro le mie idee io chiudo la fabbrica, è chiaro che anch'io andrei a votare a favore, ci mancherebbe altro. Il discorso è questo, non è più un referendum vero, non è più un'elezione libera. Quei lavoratori che stanno accettando passivamente, perché... E che dovrebbero fare? Prendere il fucile? Le dico subito, accettare, io fossi nelle loro posizioni, accetterei, ma mi cancellerei dal sindacato, non mi iscriverei in nessun sindacato, né PIOM, né CIS, né WIN, cioè a che senso ha? Ma lei che mestiere fa, Massimo, che mestiere fa lei? Quando poi il sindacato sottoposto a ricatto accetta passivamente... Ma perché sottoposto a ricatto? Magari il sindacato... Perché Cruciani? Scusi Massimo, scusi un attimo, lasciamo perdere la questione del referendum. È possibile, anzi io sono sicuro che è così, che i sindacati che hanno firmato l'accordo con la Fiat l'abbiano fatto non perché sottoposto ad un ricatto, l'abbiano fatto consapevoli che la nuova strada intrapresa da Marchionne sia l'unica possibile, e questo è il punto. Perché non bisogna considerare questa ipotesi? Cioè il fatto che i sindacati che hanno firmato lo hanno fatto consapevolmente perché pensano che sia un buon accordo. Luciani, secondo lei i problemi della Fiat sono il costo, l'incidenza del costo del personale che è intorno ma no, ma non sono solo quelli, certamente parlare, Massimo, favore, non, sono solo, non sono solo quelli, certo, nessuno vuole dire che l'unico problema della Fiat sono i dipendenti. Luciani, la Fiat in 25 anni ha cambiato 25 modelli di auto, La Golf, venduta dalla Volkswagen in 25 anni, è una delle auto più vendute al mondo. Chissà perché. Sì, però non si possono paragonare modelli. Il problema, uno dei problemi strutturali della Fiat è la qualità del prodotto che si vende. Ma anche, certo. Secondo me, Marchionne è lo stadio finale di un processo iniziato 15 anni fa, cioè la finanziarizzazione della Fiat, che diventa un holding finanziario. Questi fanno auto per avere finanziamenti, un po' in Brasile aprono fabbriche e hanno finanziamenti statali, in America adesso con la Chrysler, in Italia da 50 anni e hanno accantonato la loro funzione, che è quella di produrre. D'accordo, ma a un certo punto le auto bisogna produrre, perché sennò si va a carte 48, cioè, alla fine di tutti questi processi le macchine bisogna venderle, però. Luciani, in Italia i numeri della Fiat sono peggiori delle altre auto, e io le dico che fra 3-4 anni Mirafiori e Pomigliano avranno gli stessi problemi, perché ci sarà un'altra zona del mondo che produrrà auto a costi inferiori. E ripeto, l'incidenza del costo del personale è del 7%. Con queste novità del grandissimo Marchionne si ridurrà la spesa del personale del 10%, del 10% sul 7%, quindi da 7 passeremo al 6. Il 6% incide il costo del personale sulla produzione di un'auto, il resto sono altre attività. E dunque cosa dovrebbe fare, secondo lei? Perché poi uno può criticare Marchionne, no? Lo fa Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, lo fa Gad Lerner, lo fanno Luciano Gaglino su Repubblica e tanti altri. Ci sono le critiche e tutto. Dopodiché, l'alternativa qual è, Massimo? L'alternativa sa qual è, Cruciani? Innanzitutto fare un prodotto di qualità e dire la verità, perché se si ha la collaborazione dei dipendenti, le aziende vanno benissimo. Qualche ora fa ho sentito il programma di Focus Economia del suo collega che parlava di un'azienda di Fabriano, e questo signore, un senatore del PDL, diceva che ha 2700 dipendenti, producono cappe, la principale azienda mondiale. Che lui ha il suo punto di forza, il dialogo con i suoi collaboratori, e non li tratta da schiavi. Va bene? Quindi secondo me la soluzione migliore è non bleffare, dire la verità. Allora, ha ragione Parenzo, la Fiat in questo momento è la testa di ponte di tutto un movimento che è volta a scardinare questi diciamo lacciuoli, queste, con la scusa della globalizzazione, della riduzione dei costi. Questa è la verità, Cruciani, perché ripeto, fra 3 anni Pomigliano e Mirafiori avranno gli stessi problemi. Vabbè, ma è Massimo, no, per carità, ma lei ha espresso le sue idee, mi sembrano delle cose molto sensate, non sono delle cose campatinare nella maniera più assoluta, però le nuove SIM, mi raccomando, Non si preoccupi, non sono tutte attive, comunque alcune le ho disattivate nel frattempo. Traffico, grazie Massimo, a presto. Ciao. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia la cruda verità. C'è una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi? Eccola qua. Sono pazze del mio sole. Allora, con rispetto di tutti, caro Parenzo. Non alla Borghezio, però. Alla Borghezio, rispettate tutti, ma chi può pensare che Berlusconi si riferiva alla zanzara a questo programma? Abbi pazienza, c'è qualcuno che mi dice: ma quando Berlusconi ha parlato della zanzara? Ma di che stiamo parlando? Ma non capiscono l'ironia, perché? Ho capito, ma davvero è impossibile che qualcuno abbia potuto solamente immaginare che Berlusconi si riferisca alla zanzara, alla nostra trasmissione. Ma non perché non la conosca, non la consideri, non lo so, non mi interessa. Perché, insomma, si sente anche. Ma non ascolta Berlusconi, questo è sicuro. Però voglio dire, lì bastava sentire le parole pronunciate dal cavalierissimo. Appunto. Quando dice l'ho presa, è evidente che sarà lì alla festa di Atreius, se non ricordo male. Sì, non può darsi. No, aspetta. Qua c'ho la data, dovrei avere la data. Gli arriva la zanzara e lui la prende addirittura, quindi 11 settembre 2008, sì, 11 settembre 2008 potrebbe coincidere con la festa di Atreio, sì. Sì, lì dove ci va anche Otelma, figurati il posto. Ma no, Otelma l'ultimo anno ci è andato. Posto comprensivo, Atreio una volta una roba seria. Ma sono andato pure io a presentare il libro di Battisti, sei pazzo? Ma tu guarda, quando ci è andato Otelma, può andarci chiunque alla festa di Atreio, ma ti rendi conto? Otelma ad Atreio, dai. Va bene, va bene, va bene. Mettetevi Mario Brega, su Mario Brega. Ma no, ma perché come Mario Brega si mette a parlare di Pomigliano, della vertenza di cosa ne sa Otelma della vertenza di Pomigliano? E magari qualche previsione l'avrà fatta pure sulla Fiat, eh? Ma peggio mi sento. E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fai, io fascio. A so come io mica so comunista così, sa! So comunista così! Allora, Stefano da Perugia, abbiamo 8 minuti, eh? Da questo momento 8 minuti, non per lei, Stefano, eh. 8 minuti. Prima della fine di questa trasmissione, Stefano, se inizia così, sì. Stefano, via, vita, no, animo. Niente. Io, guardi, prima di tutto le faccio i complimenti per i 16 busti, perché penso che avrà la sensazione di vivere al Pincio a Roma. In un museo, ho la sensazione di vivere in un museo. Senta, no, il discorso è questo, io... Non ma li ho comprati, non è che me l'hanno regalati, ho tirato fuori i quattrini. Nessuno... lo metto in dubbio. Ecco, io sono un elettore di destra, sì, di centrodestra, perché nessuno è perfetto, ma dato che il mio partito non esageri, è un partito tutelato dal WWF qua assieme al Panta, che è il partito liberale, quindi No, la cosa è, il discorso è questo: io penso che Berlusconi ormai indugi troppo sul discorso dei comunisti, non tanto, a parte il fatto che i comunisti ormai non ce ne sono più, forse ce n'è rimasto qualcuno. Beh, no, ci sono, Stefano. Sì, sono quelli... Guardi, alla federazione della sinistra è pieno di comunisti là dentro. Sì, no, ma adesso non mi fraintenda, nel senso che nel centro-sinistra ci sono giusto quelli più sanguigni, sono gli ex democristiani di sinistra. Sì. No, anche perché obiettivamente io mi sarei augurato, detto, pur avendo delle idee liberali, sì, rimpiango che non ci sia una sinistra con un partito comunista tosto come c'è ai tempi di Berlinguer, eccetera, perché penso che se avessimo avuto un partito comunista del genere, credo che forse qualche cosa sarebbe stato fatto, perché Berlusconi sarebbe stato pungolato in maniera diversa. Sì, ma non alla maniera del partito comunista dell'epoca. No, dice, un'opposizione compatta. Sarebbe stata un'opposizione, una vera opposizione. Obiettivamente penso che qualche riforma forse sarebbe stata fatta. Guardi, parole sante sono state quelle pronunciate qualche giorno fa in un'intervista al Corriere della Sera da Antonio Polito, il giorno in cui ha lasciato il Riformista. Il vero problema della sinistra italiana, sono parole di Polito, non è che l'ha detto Berlusconi, il vero problema della sinistra italiana è il legame del Partito Democratico con la CGIL. Finché non si rompe il rapporto tra il Partito Democratico e la CGIL, non c'è niente da fare. Stefano, è rotto ormai. No, ma che è rotto? Quando mai? Ma come è rotto? Ma quando mai? Ma D'Alema ha schiaffeggiato. Ma di che parli? Ma che c'entra con Ferrati? Ma che stai dicendo? Più. Ma quale rotto? C'è un rapporto ancora strettissimo. Ma non esiste più nessun rapporto tra la CGIL e il PD. Ma stai dicendo delle robe che non stanno né in cielo né in terra. Ma la Camusso, hai visto che la Camusso sta isolando la Fiom ormai? Ma a parte quelle sono logiche interne alla CGIL. Esistono due logiche interne, una all'interno della CGIL, in cui la Camusso... Ho capito. Ormai scusa, Parenzo, ma d'accordo, ma tu non puoi negare che ci sia un rapporto ancora molto stretto dal punto di vista di elettorato, tra la CGIL e il Partito Democratico. Ma Fassino ha detto che è a favore dell'accordo, Bersani, tutta la dirigenza del PD, tiramene fuori che ha avuto il coraggio di dire sono con la Fiom, ma l'accordo, ho capito, ma la Fiom è una cosa, la CGIL è un'altra, sono due cose un po' diverse. In questa fase invece chi ne uscirà con le ossa? Comunque, adesso io sarà la Fiom. Comunque, poi quello può darsi. Io stavo dicendo semplicemente che Polito sostiene questa cosa. Io sono assolutamente d'accordo che il vero problema sia ancora questo, nonostante il fatto che ci siano dirigenti del Partito Democratico, come dici tu, che prendono le distanze spesso dalle posizioni oltranziste della CGIL. Stefano, allora per concludere, 30 secondi perché. Per concludere è molto semplice. Penso che il programma dei nostri partiti politici, sia di sinistra che di destra, sono quelli del Gattopardo. Tutto cambi perché niente cambi. Quindi va bene, Stefano, lei è catastrofista al massimo. Laura da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Buonasera, signora Laura, dica velocemente. Sì, auguri, buon anno. Buon anno, dica. No, io mi sono fatta un po' di risate sulla telefonata di quel signore che ha ricevuto e è andato all'Eliseo. Allora? Ma perché per me non è vero assolutamente niente, perché chi ha frequentato il Parlamento, chi è stato in politica, sa benissimo che quello sono tutte balle. che ti ha raccontato. Beh, scusi Laura, però abbia pazienza. L'incontro di Berardi con Carla Bruni c'è stato perché è stato riportato dalle agenzie, ne ha parlato la stessa Carla Bruni. Mi meraviglio di lei, lo sa benissimo quante palle raccontano i giornalisti, quante cose si Laura, la sento molto lontana, deve avvicinarsi di più al microfono, al telefonino, non so dove sia. Parli meglio, non so, avvicini più la bocca, non so che cosa deve fare perché la sento lontana. No, adesso mi sente? Sì, la sento, ogni tanto la sento di più, ogni tanto la sento di meno. Comunque, guardi, l'incontro c'è stato, che poi si sia svolto nei modi che sono stati descritti oggi da Berardi in maniera molto colorita, questo francamente non lo so, però io tendo a credere a Berardi, a meno che adesso non voglia fare un po' il buffone, ma non credo. Poi avrà sicuramente romanzato qualcosa o comunque qualche dettaglio lo avrà un po' esasperato, però insomma la sostanza dell'incontro deve essere stata quella, cioè quella che abbiamo detto, cioè le parole di alla sostanza, al di là del colore, la sostanza è: Carla Bruni ha detto a Berardi quelle frasi lì, lei lo smentisce, lui lo riconferma. Ferdinando da Firenze. Pronto? Dica. Sì, salve Cruciani, come sta? Ci siamo parlati già un anno fa a proposito del comizio Berlusconi Come con la Folla Cianica da Firenze. Come faccio a ricordare? Non posso ricordare. Una piazzetta. No, le volevo dire a lei che oggettivamente io l'ascolto tutte le sere, per me è veramente come tornare con gli amici, però lei oggettivamente è diventato diverso. Io mi sembra di essere sempre lo stesso. Comunque. No, mi sembra diventato pretestosamente provocatorio. Per parafrasare un po' quello che diceva fino ieri sera, non è provocazione, è un ragionamento. Invece ultimamente lei mi sembra più senza la provocazione non il ragionamento. Questa è una critica che le faccio, la prenda così. Per carità, la prendo, la porto a casa. Poi? E invece volevo dire a Parenzo che siccome io una volta alla settimana sono a Roma per lavoro e un paio di volte, no, due o tre volte sono andato in Piazza di Pietra, lo sentivo alla radio, arrivo lì alla caffetteria e bar accanto, sì. Mai, ma è vero o non è vero? No, ma scusi, non è che ogni giorno sta a Piazza di Pietra, no, a Piazza di Pietra, no, quando lo dichiara. Ma io ci andavo mentre ascoltavo che lui diceva adesso in Piazza di Pietra. Avrà visto male. All'angolo, in via di Piazza di Pietra, c'è il bar, è fatto all'angolo, quindi c'è via di Pietra e la piazza, io ero sulla via. Allora ho fatto un errore. Ha capito, Ferdinando? Comunque è importante che non vada. Comunque venga. Importante che non vada lì con intenzioni bellicose. Comunque. No, ma anche se viene con intenzioni bellicose va benissimo, mi rifaccio la casa poi, va bene. Grazie, Ferdinando. Grazie, Piero da Napoli. Buonasera. Buonasera. Da un lugar. Aspetta. Mi scusi. Però ho ascoltato solo pochissimi minuti solo per dire questo. Per quanto riguarda lo scellerato accordo della Fiat. Scellerato l'accordo. Io non faccio l'operaio, però vorrei semplicemente dire questo. Secondo me lavorare 8 ore consecutive vicino alla catena di montaggio è assolutamente e fisiologicamente assolutamente sbagliato. No, scusi Piero, io credo. Non mi sembra un accordo che costringe i lavoratori a diventare degli schiavi. Allora, vado a leggere l'accordo. Non l'ho letto. Non mi pare Piero. Sono 8 ore consecutive vicino alla catena. Piero, non mi pare una. Non mi pare che. Non mi pare che i sindacati che hanno firmato questo accordo. Piero, tanto devo chiudere la trasmissione, per cui ci sentiamo. E devo chiudere, che devo fare? Ho degli orari da rispettare. Ci sentiamo domani se vuole. Ci sentiamo domani. Non fa parlare le persone. Ma che non faccio parlare le persone? Ma non dica. Non fa parlare le persone, lo fa sempre. Ma non dica stupidaggini. Se vuole ci sentiamo domani. Lei può parlare quanto vuole domani. Vabbè, la sentiamo domani. Vado, sì, alla catena di montaggio, come dice lei. Fascista, sì, fascista. Che sono? Scusi Piero, lo ripeto un po', che sono? Ha spento, vabbè, ha chiuso il telefono. Dobbiamo chiudere per forza così questa stupenda trasmissione. Caro Parenzo, ci sentiamo domani, 18:30. Au revoir, fascista. A domani. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi? Eccola qua. Le zanzare di casa mia, la cruda verità. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare. La zanzara.